Italian Podcast Network per l'Emilia. Un aiuto alle vittime del terremoto. Portiamo il nostro aiuto concreto a chi è rimasto vittima del terremoto che ha colpito le province di Modena, Ferrara e Bologna. Per questo motivo lo staff di IPN si impegna a devolvere l'intero importo delle donazioni pervenute tramite il banner Sostieni IPN con un bonifico bancario sul conto Unicredit Banca, intestato a Regione Emilia-Romagna. È possibile effettuare una donazione direttamente dal banner Sostieni IPN sul sito www.italianpodcastnetwork.it oppure effettuando voi stessi un bonifico alle coordinate bancarie internazionali che troverete sul sito di IPN. IPN ha bisogno di voi. L'Emilia ha bisogno di aiuto. Oggi. Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Carissimi amici, bentornati al secondo episodio di Dietrologia Videoludica. www.dietrologiavideoludica.wordpress.com è il nostro sito di riferimento. Trovate Dietrologia Videoludica come pagina su Facebook. Ci trovate naturalmente anche su Twitter, anche se ancora non siamo proprio super attivissimi, cercando l'utente Dietrologia Videoludo. Ovviamente era troppo lungo Videoludica, ma penso che se cercate Dietrologia Videoludica sicuramente ci trovate. Stessa cosa vale anche per Google Plus. Quindi Dietrologia Videoludica, troverete anche lì la relativa pagina, è dietrologiavideoludica@gmail.com, naturalmente la nostra posta elettronica, dove non c'è ancora scritto nessuno, però qualche commento qua e là in giro per la rete questa trasmissione già l'ha suscitata. Insomma, poi questa è una cosa che affronteremo ovviamente verso la fine, quando leggeremo ovviamente i feedback che abbiamo ricevuto e che ci hanno fatto tra l'altro molto piacere. Chi è ovviamente con me a realizzare questa trasmissione, che tra l'altro questo episodio sarà veramente particolare e abbastanza impegnativo, abbiamo, e come sentite dalla musichetta in stile pornografia, il nostro amico Stefano Biggio, anche detto Biggio. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo i miei degni amici. Nostro amico, perché tu sei il co-conduttore in teoria. Poi non è vero, faccio tutto io, però. No, vabbè, fai tutto tu, perché appena apro bocca mi interrompi. Quello che poi accusano, di cui accusano il sottoscritto. Quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda, quella sbagliata. Ma noi ci amiamo, ci vogliamo bene. Come amiamo. Ma a noi ci piace così. Diciamo. Come amiamo e vogliamo bene, ovviamente, al Dr. Brown, che ovviamente. Come non amarlo. È la star di questo programma, che è Luigi Marrone. Ciao Luigi. Ciao e bentrovati a tutti. Ma ci devi stare, Luigi, ormai sei la ci star, quindi... Sì, sto talmente splendendo di me stesso che adesso prendo fuoco. Okay. Ok. Luigi, gira voce che ti hanno visto girare in limousine adesso, da solo, da solo, solo tu e l'autista. Sì, sì. Non so se... È arrivata anche a me la voce mentre stavo dormendo. Ah, ok. Sarebbe stato più bello se ovviamente insieme alla limousine e la faccia di Luigi ci fosse stato ovviamente la musichetta che mettiamo sotto a Stefano, però va bene così. Direttamente da Archeologia Videoludica, perché come abbiamo detto questo è un podcast metà da una parte, metà da un'altra, quindi è un figlio ibrido, il nostro amico Sam, che è stato ribattezzato anche Marcus Brody, Roberto Bertoni. Ciao Roberto. Ciao a tutti, è un piacere essere qua con voi, e poi con Luigi Marrone è tutto un altro podcast. Hai detto bene. Questo poi oramai è live motive. Ma Roberto, perché eri assente nel primo episodio? Ero perso a cambiare i pannolini. Fondamentalmente la mia vita è passata a sparare merda negli ultimi 5 mesi, quindi Diamo un bacio e un abbraccio al piccolo Pietro venuto al mondo per portare ovviamente pannolini e merda a Roberto. Va bene, ok, finiamo ovviamente il giro delle presentazioni con il nostro carissimo e fantastico e super amatissimo anche lui dalle folle, soprattutto da quelli che hanno un animo un po' stronzo, che però non riescono a tirarlo fuori, il nostro distruggitore Marco Gualdi. Ciao Marco. Grazie, grazie, vi saluto tutti quanti. Finalmente una sedia che non fa rumore, che non mi sodomizza quando sto seduto più di 10 minuti. Io ho anche in studio. Questo potrebbe anche influire sulla mia cattiveria, magari metto più buono. È vero, perché stai più comodo. Sono comodo, magari mi addormento. Perché? Ma stai attento, perché un attimo Marco, guarda, riprendere con la sodomia, purtroppo funziona così, vabbè, è la vita, è la vita. Prossima volta eventualmente il dolore rende duri. La prossima volta eventualmente gli rimettiamo la sedia quella scomoda che faceva tanto rumore e tristezza. Gli rimetteremo qualcuno sotto direttamente. Va bene. È più comodo. Va bene. A questo punto entriamo direttamente nella vivo della trasmissione. Allora, secondo me se dicevi penetriamo io la trasmissione era più bello, però è un suggerimento. lo so. Lo so, ma questa è purtroppo è ironia becera, non ci si addice. Non possiamo stare sempre lì a penetrare tutte le settimane, insomma. Allora, siamo entrati nel vivo della trasmissione e a questo punto dobbiamo svelare il tema, sebbene sia su Google Plus che su Facebook, insomma andando in giro di qua e di là, insomma, abbiamo cercato di esporre quello che era il tema della puntata per ricevere magari qualche feedback da parte degli ascoltatori, ma gli ascoltatori hanno pensato semplicemente di dire Luigi Marrone ti amo oppure siete dei cialtroni, piuttosto che contribuire all'episodio. Diventerà una tradizione il fatto che siccome che Stefano Biggio, come abbiamo detto, si sta imparando a leggere. Esatto. Imparando a leggere, noi siamo molto fieri di questa cosa. Esatto, perché siamo noi che gli stiamo imparando a leggere. E tocca a Stefano ovviamente leggere il tema dell'episodio e quando ovviamente avrà finito di leggerlo, Marco dovrà dare anche un voto per vedere occhio se le doppie che ti vedo qualche volta ancora in difficoltà. Ti ciocca, attenzione, ti ciocca. No, io ho problemi con le vocali più che vai altro. Con il tema della non puntata. Non tanto le doppie. Sì, va bene, speriamo che vada tutto per il verso giusto. Allora, iniziamo. A cosa punta un publisher? Cosa è disposto a fare affinché il suo prodotto abbia il massimo del risultato possibile? Il rapporto tra publisher e riviste, o più in generale stampa specializzata, quanto è condizionato o condizionante? Portando qualche esempio, perché giochi come Mass Effect 3, Skyrim e Diablo 3, per non parlare di tanti altri nel recente passato che a dispetto di presentazioni mirabolanti e campagne pubblicitarie con euro buttati a strafottio, sono usciti pieni di bug che spesso minano la possibilità di apprezzare in pieno l'esperienza pur ottenendo voti superiori al 9.0? Punto interrogativo. Se Marco Gualdi avesse scritto questa cosa in italiano io l'avrei letta in italiano, purtroppo l'ha scritto in Marco Gualdese e innanzitutto qui non leggiamo comunque tutti interrogativi. Però io devo dire che è andato quasi bene. Sì, ha avuto una piccola incertezza sempre con le doppie, lì le doppie l'hanno un po' incartato, però tu hai scritto buttati. Ma lui è sardo, ragazzi, cioè lui parlano in stampatello i sardi, insomma, quindi esatto. Va bene, allora comunque com'è andata, come vi sembra che sia andato? Dai, un voto da 10, Marco. Se mi date una mazzetta ti do un 9. Io gli do un 7. Luigi, quanto gli diamo? Siete una massa di gli do un 8 pieno, dai, per l'impegno. Luigi è la parte buona. Grande. Invece Luigi mi vuole bene, lo sai che. Invece la parte cinica, anche insomma, l'altra parte cinica del nostro programma, che è Roberto, sicuramente gli darà un 4. Io darei un voto superiore al 9.0, come detto. Oppure un Metacritic, vai con Metacritic. Non perché abbia la casa Sardegna, solo perché siamo proprio lo ammiro per come ha letto il suo stile. Lo ammiri e lo aneri anche un pochetto. Va bene. Sappi che per pochi soldi puoi avermi per quanto vuoi, quindi non c'è problema. E sono sempre bei messaggi che diamo. Comunque se entriamo anche nel vivo del programma, forse sarebbe meglio, visto e considerato che veramente di roba qua, ragazzi, ce n'è tanta. Facciamo una piccola premessa intanto. Noi abbiamo improntato la scaletta, ossia gli argomenti di ragionamento, un po' come se fosse un processo, come se noi partissimo da un partito preso. In realtà poi alla fine il nostro scopo non è quello di arrivare a fare una critica per forza di cose, ma è di ragionare magari anche al contrario, partendo ovviamente da opinioni comuni che spesso e volentieri si sentono in giro, e questo insomma penso che sia abbastanza chiaro. Chiaramente il discorso è tutto incentrato sul rapporto tra publisher, software house e stampa specializzata. perché insomma se ne è discusso ogni tanto, sia in qualche podcast che anche sui forum, roba del genere. Non è che si è mai arrivati insomma a una conclusione, e neanche noi probabilmente, come nella scorsa puntata, arriveremo a una conclusione, ma sicuramente potremo esprimere intanto le nostre considerazioni. Io partirei proprio da questo. Come partiamo come presupposto rispetto a questa visione un po' negativa, diciamo così, del rapporto tra software house o publisher e stampa specializzata? Cioè noi individualmente come ci poniamo rispetto a questo inizio, insomma, questo tema? Partiamo da Luigi. Dunque, perché hai chiesto noi come ci poniamo? In che senso? Come se fossimo individualmente, cioè nel senso, cioè io Simone ho questa visione qua. Tu come la vedi, Luigi? Allora, innanzitutto io vedo una grossa discrepanza quando si parla di publisher fra le grandi produzioni e le piccole. Le grandi produzioni hanno delle possibilità sicuramente che, per cui le piccole viene precluso tutta una grandissima fetta di mercato e una spinta iniziale per quanto riguarda la distribuzione dei loro prodotti, che diciamo apertamente sono costrette molte volte a ripiegare in un'altra fetta di mercato che possa interessare. Io ho visto dunque emblematico il passaggio praticamente di Mass Effect 3, che è stato praticamente, che ha avuto come publisher l'apporto non indifferente di Electronic Arts. Ho visto ovviamente, che, come dicevamo anche l'altra puntata, che c'è stata una sorta di una iniezione, chiamiamola così, praticamente di denaro, che l'ha portato praticamente a andare a toccare degli ambiti che prima BioWare, che è lo sviluppatore, ricordiamo, di Mass Effect, non sognava minimamente: il gioco online, la possibilità praticamente di vedere insomma distribuito in larga misura, in tempi molto veloci, anche come produzione il loro prodotto, soprattutto un rialzo di prezzo che per le versioni diciamo retail del gioco in edizioni speciali hanno subito un prezzo, mi sembra, di un 20 euro, se non 30 euro di più rispetto ai primi due capitoli, Mass Effect 1 e 2. Quindi c'è tutto un discorso da fare anche sulle potenzialità economiche che può avere un grande publisher rispetto ad uno piccolo. Il risalto possibile molte volte è dato adesso con quei nostri strumenti tipo internet, ovviamente, tipo la rete, che è un mare magnum fondamentalmente di pubblicità possibile, da due fattori fondamentali secondo me. Uno è quello presente dell'investimento economico, che spinge tantissimo comunque ad avere una risonanza da tutti i punti di vista, e questo fa ovviamente la differenza riguardo all'appeal che il gioco può avere. Quindi le piccole software house sono costrette, diciamo, a prendere delle piccole porzioni di mercato, che sono quelle, diciamo, dello sviluppo indipendente, sono quelle della piccola pubblicità, del passaparola, delle riviste, sì, chiamiamole così, le riviste di settore di genere, ma soprattutto nelle manifestazioni di genere, affinché se ne poi possa parlare su internet e in rete, e questo crea quindi delle forti differenze. E poi stavo pensando, la domanda la devo sviluppare, la risposta devo svilupparla su tutto quello che ha letto Stefano, sì? Sì, no, in generale sì, sul tema della puntata, è chiaro, certo. Ok, l'ultima cosa vado veramente a concludere, prima che lo riprendiamo, non voglio essere troppo lungo. Sì, sì, ha voglia qua. sul fatto del praticamente sui bug, Stefano parlava del fatto di se ci sono dei bug, ovviamente come mai passano in sordina queste pecche che non vanno a inficiare il vuoto che invece dovrebbe tenere anche di conto di come il prodotto viene presentato inizialmente. Ma semplicemente penso che la grande produzione oggi come oggi si può permettere di, o quantomeno si può permettere, e dà quasi per scontato che maggior parte, diciamo, degli acquirenti accetteranno che ci sia qualche problema all'interno dello sviluppo del gioco stesso. Perché? Perché sono talmente mastodontiche le produzioni AAA che non possono tenere di conto una ottimizzazione di codice per l'uscita del gioco, che molte volte viene stabilita a monte e quindi non si fa tempo a beta testarla totalmente. Questo non va ad inficiare il vuoto, perché ovviamente già siamo nella mentalità oggi, come parlavamo l'altra volta, del videogioco come talmente un sistema di codice fluido e aperto che prima o poi uscirà la patch che risolverà tutto, quindi fondamentalmente si potrà rilavorare, sono fortunatamente dei contenuti digitali, ci si può ritoccare con gli aggiornamenti online che saranno gratuiti, bla bla bla e tutto il resto, cosa che invece non accade per le piccole produzioni, perché immaginate se un gioco, diciamo, che è uscito ultimamente, posso dire un Minecraft o un Braid o uno di questi giochi Journey, per parlare di un gioco adesso esclusivo per PlayStation 3, fosse uscito con dei bug, sarebbe quasi come a dire che la casa di produzione fondamentalmente ha sviluppato questo videogioco con i piedi, non gli ha riversato quell'amore che ci si aspetterebbe in una piccola produzione, e questo darebbe molto più risalto ad un errore grave che non avviene invece in un gioco AAA, quindi diciamo che c'è questa differenza di trattamento e di visione rispetto a come si presentano i giochi strutturalmente, come sono fatti fondamentalmente, e questo fa la differenza, cioè nel senso, questo è proprio un discorso che forse o consciamente o meno va a influire sul poi prodotto finale e sull'atteggiamento che si ha nei confronti dello stesso. Ma comunque, riassumendo quello che capisco io un po' da questo tuo discorso, a parte facciamo ovviamente notare che in qualche modo le puntate di Dietrologia Videoludica prendono spunto, cioè nel senso saranno sempre un po' un divenire, no? Un continuare, perché ci sono alcuni spunti, come ha detto anche Luigi, che, di cui abbiamo già riflettuto, no? nella puntata precedente. Però quello che capisco io un attimo dal tuo ragionamento è che non è tanto se il publisher influisca più o meno sulla stampa, quindi ti poni come colpevolista, diciamo così, ma il publisher influisce in generale proprio sul prodotto in maniera grave, anche in certi casi, come addirittura con il discorso di BioWare, che abbiamo detto, come abbiamo detto la puntata precedente, che fino a che aveva una certa indipendenza ha sfornato prodotti di un certo tipo, da quando è subentrata Electronic Arts i prodotti hanno incominciato ad omologarsi tra virgolette in un certo tipo di discorso. Ho sintetizzato bene o ho detto un sacco di... Sì, non ho volutamente toccato la stampa perché non penso che esista una stampa specializzata oggi nel videogioco, perché non ci sono i canoni critici istituzionalizzati per poter dire questo è specializzato e questo non. Mi ricordo ancora che quando parlai con Matteo Bittanti in una conferenza a Milano, in una conferenza, diciamo, sui videogiochi, lui disse apertamente: la specializzazione oggi, se vuoi, è quella che viene fatta da forum, da passaparola, dal ragazzo che gioca e posta le sue impressioni. Questa è la critica che viene fatta al videogioco, se si vuole parlare di stampa specializzata. Che poi abbia un'influenza sul prodotto o meno la stampa, io lo considero molto relativamente questo discorso. Penso che infatti poi dopo magari c'è proprio un punto, perché sì, molti giornalisti tendono, ho sentito dire spesso, giornalisti, poi vabbè, coloro che comunque poi alla fine sono giornalisti, fanno questo di mestiere, tendono comunque a dire. Comunque, vabbè, poi dopo approfondiamo un po' bene tutto, sì, quanto il discorso. Io sì, volevo sentire anche l'opinione di Roberto, che ricordiamo Roberto Bertoni ha una collaborazione abbastanza stretta, insomma, con Eurogamers.it. Ciò non significa che lui parla a titolo di, cioè nel senso, comunque tutto quello che dirà, mettiamo questo disclaimer, è comunque una sua libera interpretazione dei fatti. Non arriverà un omino Eurogamer e ci intimerà di cancellare tutto, insomma. Un signore, come è successo in altri lidi, ma vabbè, non ne parliamo. Vai Roberto. Sì, come ha anche anticipato Luigi, il suo discorso che va a toccare appunto il rapporto fra stampa e publisher o quant'altro è abbastanza complicato. Lancio anch'io qualche spunto, poi eventualmente, come diceva sempre Luigi, ci torniamo sopra. Innanzitutto il rapporto che c'è fra publisher e rivista, adesso seguo un po' quello che la lettura di Stefano, che oltre ad essere stata ottimale per me deve essere appunto valorizzata. Grazie per la pietà. Figurati, prego. Ad agosto sono libero comunque. Allora, praticamente, primo rapporto fra publisher e riviste. Questo rapporto è particolarmente stretto, o meglio, è particolarmente importante. Adesso non sto dicendo che non sono ancora arrivato al punto di analizzare se qualcuno cerca di favorire qualcun altro, no, è un altro discorso. O meglio, è molto importante per chi lavora all'interno del publisher, o meglio, il suo lavoro viene giudicato spesso, non sempre, da quante copertine riesce a portare a casa per quanto riguarda la carta stampata, o da quanti titoli o quanti accessi riesce a avere sulla rete, sul sito internet, diciamo. Quindi questo è un aspetto sicuramente importante di cui tener conto. Di cui tener conto perché chiaramente nel momento in cui si andrà ad analizzare a presentare un gioco, si cercherà di enfatizzare il più possibile appunto gli aspetti positivi di questo gioco quando si viene con una certa testata, in modo tale da in qualche modo riuscire a avere un ritorno più alto possibile. Questo è una premessa di quello che immagino chiunque lavori in un mercato cerca di fare. Se io vendo una macchina, cerco di far vedere la macchina quanto è bella. Infatti questo è un discorso che vale partiamo dal presupposto del videogioco, ma poi in realtà qualsiasi altro tipo di prodotto, no? Dalla musica al cinema, cioè, nel senso, penso che il marketing che sta dietro funzioni con questi presupposti, no? Esatto. Quello che voglio dire io è che personalmente, e qua mi allaccio un po' alla coda di quello che diceva Luigi, non ritengo che allo stesso modo il ritorno che si ha dalla stampa sia un metro che, per il quale un publisher o uno sviluppatore può dire il mio gioco sarà venduto più o meno tanto. Questo appunto perché, un po' come diceva anche Luigi, continuo a riferirmi a lui un po' come se fosse il vate assoluto, ma ha detto cose che condivido. Tra un po' abbandona il programma, Luigi. Ma scende, tra un po' scende. Appunto, è più facile che sia il passaparola o la pubblicità in televisione o l'hype che il marketing è in grado di generare che può in qualche modo effettivamente influenzare le vendite. Questo perché la lettura di una recensione è difficilmente, se non per i giocatori più accaniti, la leva che può decidere o meno l'acquisto di un gioco. Okay. Passiamo invece dal lato della stampa. La stampa ovviamente si vede recapitare fra virgolette dei giochi, si vede presentare dei giochi in maniera più o meno positiva, però ovviamente essendo un mercato deve essere capace di avere una visione il più possibile oggettiva, e quindi qua posso allacciarmi con la mia esperienza, ad esempio, non perché il mio sito con collaboro o quant'altro, però mi è capitato più di una volta di scrivere recensioni e dare dei voti o più alti o più bassi rispetto magari a quello che il mio caporedattore poteva pensare, e questi voti sono rimasti uguali, anche se ad esempio per assurdo avevamo la pubblicità in prima pagina. Questo non è per dire Eurogamer o qualsiasi altro sito sono bravi, sono belli o quant'altro, assolutamente no, ma per dire che l'auspicio in un contesto giornalistico, comunque in un contesto dove il servizio che si propone è quello di recensire un gioco, di fornire delle informazioni a chi deve effettuare un acquisto, deve cercare di essere il più oggettivo possibile. Beh sì, comunque questa è la mia esperienza personale. Poi scusa un attimo Simo, vai. Abbiamo esempi internazionali dove purtroppo questo rapporto non è sempre stato così, dove di riff o di raffa si è venuti a sapere che qualcosa non ha funzionato in questo meccanismo. Poi ne parliamo meglio, ci sono stati licenziamenti, ci sono state delle critiche, ci sono state delle pubblicità addirittura levate perché è stato dato un voto rispetto a un altro. Ecco, questo ci fa pensare che magari in un mercato come l'Italia, che comunque non è così... È relativo, diciamo, l'importanza di dare un voto più o meno alto non è tale, appunto, che non c'è un movimento, un beneficio per cercare di modificare un voto. A livello internazionale ho qualche dubbio molto più grande, sicuramente, sia perché appunto il mercato che gira è diverso, sia la cassa di risonanza è diversa, sia il giocatore che si informa è diverso, e quindi in questo caso sì, qualche dubbio penso di poterlo avere, appunto in relazione a quanto visto negli ultimi anni. L'ultimo aspetto da affrontare, e chiudendo appunto la magnifica lettura di Stefano, era relativa al discorso bug, prodotti creano incompleti. Ecco, su questo non sono completamente d'accordo con quanto dice Luigi, e purtroppo verrò fulminato dal temporale in arrivo. No, ma questo anch'io perché... l'altra volta non ero d'accordo con Luigi. Ma infatti non è mai avuto problemi gatti neri. Ha fatto penitenza ed è stato perdonato. Dicevo che riguardo a questa cosa, il discorso del bug, ho purtroppo visionato prodotti indipendenti fatti coi piedi, prodotti che devono essere veramente importanti fatti coi piedi, e il ritorno che hanno avuto purtroppo, nonostante il marketing e quant'altro, è stato negativo. Quindi purtroppo personalmente dal mio punto di vista di giornalismo, ogni volta che mi trovo incontro a un prodotto che devo recensire che in qualche modo presenta dei bug più o meno significativi, mi sento in dovere di penalizzare. Questo appunto perché lo trovo ingiusto con chi effettua l'acquisto il primo giorno. Nel senso, tu, come se ti vendo una macchina per tornare al paragone e non ti do a levare il cambio. Poi te la mando per posta. Sì, sì, ma no, vabbè, questo è un po' un discorso che abbiamo affrontato anche l'altra volta. In realtà, esatto. In realtà Luigi, secondo me, non è che ha torto. È che lui approccia il discorso da un altro punto di vista e filosoficamente probabilmente non è neanche sbagliato. È un po' la nostra visione delle cose rispetto a quello che è ovviamente un prodotto. Però vabbè, poi tanto... noi siamo più materialisti. Sì, sì, uguale. Io quando compro a bambola gonfiabile non ci deve essere buco, penso. No, cioè ci deve essere un buco, non quello, ma sì, ma cambiamo come, va bene. Stefano, allora, io devo dire che adesso parlo da utente di quello che si comprava le riviste da ragazzino, come dite voi, a quello che appunto è passato. Scusa, scusa, lo so che è brutto interrompere. Sì. Posso fare una domanda che non c'entra assolutamente niente, però ve la voglio fare uguale perché è una cosa che ce l'avevo già l'altra volta. Certo. Qual è la rivista che compravate voi da ragazzi? Sì, la Germania sta vincendo. Chi era per K e chi era per The Games Machine? Allora, io Console Mania fondamentalmente e The Games Machine. Ok, Luigi? Compravo entrambe, sia K che The Games Machine. Sì, anch'io, però no, dico per simpatia, qual è... Ah, beh, io The Games Machine sicuramente. Ok. Perché è nato da Zappa. Ma io diciamo che più che altro da ragazzino fino a poco tempo. Lui ancora le compra. Ma io no, ho smesso da un mese perché adesso c'è crisi, è aumentato di un euro The Games Machine. Non c'è manco più il gioco dentro. C'è manco più il gioco, vaffanculo. E allora non te compro più. Però scusa. The Games Machine pure. The Games Machine, sì. E Roberto? Sicuramente The Games Machine, e posso dire spesso non per i giochi. Cioè non per quello che c'era scritto sui giochi. Ma sapete che io invece proprio sono proprio quanto, cioè nel senso, compravo The Games Machine, l'ho sempre amata e tutto quanto, ma cioè io ero proprio K, mi piaceva di più, non so perché. No, tra parentesi, ora mi sono ricordato, soprattutto PC Gamer quando usciva. Vabbè, ma io ho detto The Games Machine e K, a me non mi frega niente se compravi il libro di cucina. Vabbè, comunque Stefano, vai con sei la tua. Tracotante. No, mi di riviste, io ho detto la rivista. Ha ragione Morgan, tu sei tracotante. Vai. E tu non mi interrompi. No, allora, stavo dicendo, quindi, che secondo me, da quello che ho visto, la stampa, la cosiddetta appunto stampa specializzata, che secondo me comunque se un lavoro uno lo fa per tot tempo, ha un certo tipo di specializzazione, come chiunque, qualunque persona che svolga un certo mestiere per un certo periodo, poi quanto deve essere questo periodo più o meno, insomma, relativo, però ti dà una certa capacità, ecco, al di là della scrittura, proprio nel giudizio, che secondo me deve essere imparziale. Comunque secondo me loro si ritrovano in mezzo, proprio tra le incudine del martello, perché devono fornire una recensione, quindi devono dare un'idea che sia il più generale possibile, focalizzandosi su quelle che possono essere le cose più interessanti per quanto riguarda appunto i giocatori, e contemporaneamente devono, come stava dicendo Roberto, appunto cercare di far vedere quelli che sono gli aspetti positivi del gioco, quando ovviamente quando questo è possibile. Personalmente dubito, almeno da quanto sento, da quanto ho sentito in generale, che in Italia ci sia una specie di compravendita tra virgolette dei redattori, ecco, cioè che il publisher ti sprona, diciamo, a fare delle recensioni positive tramite mazzette tra virgolette, al massimo, giustamente tra l'altro la zona marketing dei publisher si limita in questi casi a cercare di invogliarti, diciamo. Io mi ricordo adesso, da poco stavo leggendo, no, finito da poco di leggere Wanted, la storia criminale di GTA, che è quel libro appunto scritto da Kushner, esatto, che tratta appunto da vari punti di vista questa cosa. Io ricordo che Rockstar portava i redattori, ad esempio, a fare, non lo so, li portava nei luoghi. Faccio un esempio, li portava a fare una vacanza tipo nel deserto e poi li portava a sparare, per dire, in modo da farli entrare un po' nello spirito che era quello di sia della Rockstar che di GTA. Ma forse li portava a farli sparare anche. Adesso poi farete una bella recensione, altrimenti esatto, vi tocca fuori. Insomma, questo magari più che altro per non tanto per non solo, ecco, per invogliarli a fare magari una recensione positiva, ma anche per cercare di fargli capire qual è il messaggio che vogliono trasmettere. Poi mi rendo conto che magari questi siano casi limite per certi versi, però in linea di massima, magari adesso non so, poi come cosa ti mandino, faccio un esempio, non lo so, il publisher sa che tu devi recensire il suo gioco, allora ti manda la maglietta, ti manda il pupazzetto, cose di questo tipo, per insomma, per cercare di ingraziarsi il redattore. Poi è chiaro che il publisher aveva interesse nel fatto che la recensione sia positiva, quello è scontato, però io sono fondamentalmente del pensiero che ci sia una stampa molto obiettiva, almeno in Italia, senza che non sia troppo influenzata da quelli che sono i publisher. Poi sul fatto che, giustamente, faccio un esempio, nei vari siti che ci sono appare la pubblicità dei giochi, per dire. In questo caso secondo me il redattore in gamba non deve preoccuparsi del fatto che quella pubblicità sia in prima pagina o cose così, dovrebbe cercare di fornire un servizio diciamo all'utente, in modo che quest'ultimo abbia un metro di giudizio, seguendo chiaramente una persona di cui si fida, ecco. Faccio un esempio, se io leggo una recensione di Roberto, appunto, che conosco, e dico, bene, lui ha scritto queste cose, mi fido, lo compro oppure non lo compro. Questo al di là del fatto che il gioco in questione sia stato pubblicizzato nel sito. Cioè, questo è il mio punto di vista. Quindi, secondo me, loro sono in una posizione difficile, ma in Italia mi sembra che più o meno si esca dalla questione publisher, marketing e stampa, quasi uno contro l'altro, oppure ammanicati, ecco. Poi chiaramente penso che ci siano anche dei casi, almeno avevo sentito anche qui dei casi di redattori che erano, insomma, o avevano cercato di comprarli o proprio se li erano comprati, ecco, una cosa così. Questo in generale, adesso non dico per nell'attualità, ma anche in passato forse era più una cosa. No, mi sorprende un po' da parte vostra. No, a parte il fatto che comunque allora noi non volevamo fare un episodio sul mazzetta non mazzetta, no, quel concetto è sul quanto il publisher deve pagare più o meno condizioni più o meno condizioni inevitabilmente per certi versi, e poi lo vedremo successivamente, ovviamente la stampa specializzata. Però mi fa specie un po' il fatto che, anche ironicamente, non lo dico come una polemica, però che in Italia, che è uno dei paesi più disonesti del mondo, sulla stampa dei videogiochi siamo tutti bravissimi, sono tutti onesti, e nessuno perché dopo, quando cominciano a diventare disonesti, vanno sui giornali, cioè, serie, non si spostano. Non verte su questo la puntata, comunque, cioè, in generale non è che stiamo parlando sull'onestà degli individui o delle riviste, stiamo parlando di condizionamento inevitabile, ovviamente, per certe cose, e probabilmente non inevitabile, cioè non così evidente per altre. Però voglio dire, nel senso, mi ha fatto un po' sorridere quest'ultima affermazione di... Vabbè, comunque, al di là di, insomma, di questa mia insomma digressione, sì, digressione, che poi in realtà era più ironica, insomma, che polemica. Allora, Marco, vai con la tua opinione, poi entriamo veramente nel vivo. Innanzitutto mi fa dei piacere punti. Che la nostra trasmissione, come più volte ripetuto, si preoccupa tanto di fare delle domande ma non dare delle risposte. Quello come è Giacobbo, certo. Perché noi siamo Giacobbo, quindi siamo il Voyager del podcast. Esatto, infatti DVL, dietrologia Voyager ludica, quindi quello è. Purtroppo abbiamo scoperto l'arcano già la seconda puntata. No, comunque diciamo che per quanto mi riguarda, io seguo diverse testate online come Multiplayer, videogames.it, Eurogamer, e guardo anche le recensioni Eurogamer, ecco, magari no, era anche Eurogamer, non lo so. Ma io sai che è Eurogamer, se non fosse stato per pensavo Roberto, fosse non una hoax, pensavo fosse una burla, invece è vero. Ma ha detto, sai, io lavoro in Eurogamer, che cazzo è? Salutiamo gli amici di Eurogamer che ci ascoltano sempre, che ci vorranno sicuramente. Poi passo l'indirizzo al mio capo di dove abiti, non preoccuparti. No, l'importante è che non passi il nostro indirizzo al tuo capo, questa è la cosa. Appena detto, no, questo, ma passaglielo anche, che mi fa piacere adesso che ci facciamo una chiacchierata. Qualcuno passerà l'indirizzo a qualcun altro. Comunque io guardo molto queste recensioni e in effetti poi praticamente vedere dei voti alti dati a dei giochi che giocati con mano e testati personalmente, vado a vedere che secondo me non combaciano, mi fa un po' strano. Mi fa un po' strano perché magari vedo dei giochi pieni di bug come Skyrim, come Mass Effect, come anche qualche bug maledetto che c'è stato in Diablo ultimamente. Che poi c'è bug e bug, bug e bug, perché non è che si parla di compenetrazione grafica, dei poligono, si parla loro di queste che non finiscono, i draghi che volano al contrario, cioè, di cose grosse, missioni che non possono essere terminate perché si sono scordati i pezzi di codice sul DVD. Quindi insomma, io capisco che tu vedi un gioco che diciamo è bello perché si vede, comunque è un bel gioco, ma non è completo, comunque non è funzionante al 100%, ma è un bel gioco in prospettiva, cioè di quello che sarà con le modifiche future. Non gli puoi da 9. Secondo me è anche da vedere il metodo di giudizio che utilizzano, cioè dare un giudizio numerico lascia un po' il tempo che trova, cioè se un gioco è bello, ma è bello perché sarà fra 2 mesi e 3 mesi completato e sarà tra virgolette perfetto, come fai a giudicarlo con un 9 adesso? Come fai a dargli un 9, dargli un 10, dargli un 8? Secondo me è proprio il metodo di giudizio che dovrebbe essere rivisto. Non so se poi ha una, diciamo, un redattore, comunque uno che fa una recensione di un gioco, non so se questo che fa la recensione, o meglio mi spiego, spiego a parole mie, magari anche in italiano volendo, anche parlare in italiano, chi fa la recensione, che metodo di giudizio ha, cioè chi gioca quel gioco poi è un appassionato di quel gioco, di quel genere di gioco, uno che fa una recensione per Call of Duty, che è un gioco in prima persona dove si spazza e si ammazza, gli piace quel gioco che sta giocando? Oppure se non gli piace quel genere, come fa a fare una recensione oggettiva? Cioè, io non posso dire che ci sia proprio dell'obiettività al 100%, perché vedo che comunque recensioni buttate un po' lì a casaccio certe volte, voti che sono un po' sbilanciati. Non so se. No, no, ma a parte che io penso che in una redazione si parleranno, no? Cioè, è arrivato Monkey Island. Chi è che piace l'avventura grafica? Cioè, penso, no? Penso. No, lo so, cioè forse Roberto ce lo può dire, oppure fanno chiesta a Caparra prima il codice. Lo lanciano in aria prima di prenderlo. Anche per capire io. Se perché... rispondo. Vai, sì, magari, perché anche per sapere. Allora, mi piace sottolineare appunto innanzitutto che Stefano abbia letto molto bene in apertura. Detto questo. Ah, grazie. La ringrazio. Scusa, io non ti ho fatto i complimenti, mi spiace. Non sono abituato a poter scoppiare in lacrime. E sono due cose che secondo me vanno messe insieme. Innanzitutto mi rilascio un po' al discorso del voto e un po' a quello che diceva ancora il sempre presente Luigi Marrone nel discorso che non c'è una critica videoludica, nel senso che ritengo che una delle influenze più pesanti che i publisher e software house hanno in qualche modo trasmesso alla stampa specializzata, chiamiamola specializzata in questo momento, è l'impostazione della recensione, nel senso che molto spesso si assiste a uno schema quanto è bella la grafica, quanto è lungo, se ci si diverte, quanti combattimenti ci sono, senza magari avere la possibilità di fare un'analisi un po' più approfondita, un po' più strutturata di quello che è veramente il gioco. Quindi questo sicuramente è un limite della stampa. Qua, se volete una mia breve esperienza personale, diciamo che tendenzialmente cerco un po' di rompere questo schema, ma poi mi rendo conto che probabilmente spesso ormai è anche l'utente stesso che chiede com'è la grafica, quanto è lungo, spesso si sente diatriba, non vale questo prezzo, non vale per 3 ore di gioco, eccetera eccetera. Quindi è comunque, diciamo, una critica o una recensione che è focalizzata su alcuni ambiti che non vanno, secondo me, ad analizzare spesso veramente quello che è il valore dell'opera. Per quanto riguarda invece il discorso obiettività in base a quello che è il proprio genere, per quanto riguarda la mia esperienza, diciamo che io sono allo stesso tempo fortunato e sfortunato. Sfortunato perché la redazione centrale di Eurogamer è comunque a Roma, quindi tutto quello che riguardano la maggior parte delle uscite, press release, eccetera eccetera, arrivano a Roma, quindi chiaramente la mia possibilità di intervento è limitata. Fortunato perché, essendo specializzato più sul fronte PC, ormai spesso i codici arrivano online, quindi ho la possibilità comunque di offrirmi o di richiedere quello che è un particolare genere. Diciamo che se nel momento in cui ti affronti un gioco del quale non sei particolarmente afferrato nel genere, può capitarti una volta, nel senso, a me è capitato, fra virgolette, penso appunto che volessero mettermi alla prova, ma visto che il ritorno non era così approfondito o specializzato quanto si richiedeva, non ho più avuto modo di recensire un certo tipo di genere. Questo non l'ho preso come un affronto personale, ma appunto come una ricerca di una competenza o di una specificità che magari io non potevo dare in quel particolare caso. Credo che comunque un professionista, un videogiocatore, e qua concludo, per ritenersi tale, deve cercare di avere una conoscenza più enciclopedica possibile, soprattutto in un momento in cui tanti generi stanno convergendo insieme, quindi avere più metri di paragone è importante. Quindi sono tutti uguali i giochi. No, a parte gli scherzi, quindi praticamente se io gioco faccio una recensione di un gioco, fondamentalmente mi deve piacere. Cioè, che se mi fa cagare. Beh, no, non ho capito. Per forza. Non necessariamente, potresti anche dover fare una recensione tecnica. D'altronde, la recensione su che si basa? Storia, tecnica e valutazione finale. Cioè, nel senso, com'è tecnicamente sto gioco? Com'è il gameplay, la giocabilità, quant'è la longevità? Cioè, io penso, questo ha detto Roberto, sì, sì. Quindi più o meno ognuno può essere in grado di poter valutare anche i generi del gioco che magari non ci interessano, insomma. Penso, nel senso, no? Quindi, che quello che dicevo è che allora sicuramente sarà una conoscenza del genere di base, e questo è fondamentale, cercando di avere una conoscenza più enciclopedica possibile. È anche vero, come giustamente tu dici, che i parametri su cui devi valutare un gioco spesso rischiano di essere più oggettivi di quello che dovrebbero, spero questa frase si capisca, e quindi comporta che magari la recensione risulti un po' fredda. Il lettore spesso se ne accorge e spesso probabilmente no, ma non perché il giornalista sto bravo a fregolette a truffare il lettore, quanto perché i parametri che il lettore, di cui il lettore aveva bisogno sono esposti in maniera sintetica. Summa finale è il voto, che personalmente anch'io per mia cognizione preferirei non dare, perché ritengo un videogioco più un'esperienza, e l'esperienza è difficile darci un voto. Però anche è anche vero che studi di dire, di suggerire, compro un gioco rispetto a un altro, un parametro oggettivo è comunque necessario e spesso si configura nel voto. Beh, guarda, che ma per anche esempio, perché forse pure i publisher, se il voto non glielo dai, si dice carino sto gioco, bello, però se non gli dai un voto pure loro un pochetto si incazzano. Vabbè, comunque allora riprendiamo un attimo un po' il filo della trasmissione, e adesso vi faccio tre domande molto secche, poi fondamentalmente che sono quelle tipiche domande che possiamo considerare faziose. Sì. Scusa, mi senti? Sì, sì, come una voglia. Ok, ok, sì. No, perché sono un po' scatti, ma ci siamo. Sì. No. Ok, volevo un minuto soltanto aggiungere una cosa a quello che ha detto Roberto. I più grandi, secondo me, recensori sono quelli che sanno fare critiche di tutto. Cioè sono veramente preparati a 360 gradi, e l'ho visti lavorare nei service editoriali, nelle redazioni, qualsiasi gioco veniva dato loro ne sapevano parlare con competenza, perché avevano quella conoscenza, quella materia videoludica che è a tutto tondo. Quindi che poi ci siano delle preferenze, c'è una prenotazione comunque alla base, dove chi è che vuole recensire questo videogioco, e si prenotano un tot di persone, però ovviamente ci sono alcuni recensori che sono più specializzati, e quindi, che so, il gioco di guida andrà sicuramente con recensore X, il simulatore di volo o la di guerra andrà quell'altro, cioè, qui ci sono delle preferenze poi redazionali, però comunque una buon corpus di redattori si tratta di persone che sanno recensire tutto, qualsiasi cosa dai. Quindi questo deve essere fondamentale per un lavoro, perché rispetto al lavoro di un recensore comunque anche di videogiochi parte anche da una preparazione di base che è tutto tondo. Sì, su questo sono abbastanza d'accordo, anche perché io credo che molti videogiocatori incalliti, bene o male, videogiocano quasi tutto, e poi comunque c'è anche la professionalità di fondo, no? Che comunque a forza di fare comunque quel mestiere, in linea massima sei in grado di poter valutare più o meno un po' tutto. Questo senza di meno sono d'accordo. C'è sempre però una, diciamo, differenza di anche di, non so, di valore che gli viene dato. Un gioco che ti piace, sicuramente, cioè che ti piace, che ti prende, sicuramente c'era un coinvolgimento maggiore di un gioco che magari lo stai giocando ma non te ne frega una cippa. Ma io penso che quando quando stai a fare quel mestiere, cioè nel senso, stai a fare, allora è come quando fai il critico cinematografico, cioè nel senso, è chiaro che se vai a vedere un thriller, però a te piacciono i film d'amore, cioè, però se sei una persona che sa fare una valutazione oggettiva, la sai fare, cioè vuol dire, quello è il mestiere tuo, cioè non, su quello sono abbastanza d'accordo con Luigi. Oggi penso stranamente Luigi. Abbastanza. Abbastanza. No, no, dico, ma devono tendere a veramente all'oggettiva, all'obiettività oggettiva, facciamo così, perché io l'ho visti, cioè, lavorare, gente che conosco che è in gamba, sa fare le recensioni, sa fare recensioni, cioè nel senso è preparata su tutti i riferimenti, si va a informare, legge anche le recensioni dei colleghi, cioè ha una conoscenza filologica di quello di cui va a parlare, per cui veramente in maniera molto marginale entra il fattore piacere in sé, ludico del, o la preferenza. Bisogna guardare con distacco anche quello che è, sì, la propria passione. Hai detto, va bene, poi quando diventa un mestiere non è, non è neanche, cioè, nel senso, noi la, magari la vediamo, io, Marco, magari anche Stefano, la vediamo dal nostro punto di vista, noi siamo utenti, come saremmo noi a fare i redattori, no? Saremmo come quello che, cioè, nel senso, noi ci vediamo, di Uri e bestemmiamo, esatto, insomma, cioè, ci vediamo come persone che videogiocano e giochi che gli piacciono, in realtà chi fa quel mestiere sta a fare un mestiere, cioè, è come un po' l'attore, sì, porno, insomma, ma lì non è che lo fa per divertimento, no, quello lo fa un po' su palle, no? Vabbè, c'è da dire che comunque ti deve piacere quello di cui ti stai occupando, al di là di tutto, se no sì, sei... questo sono d'accordo, però voglio dire, è chiaro che dopo comunque subentra un discorso di professionalità che comunque non puoi prescindere, sì, no? Ma proprio, sì, anche, sì, per, sì, abitudine, anche per esercizio, anche per tecnica, no? Certo, quindi certo, per tutta una serie di cose, ma questo vale nel giornalismo in generale, ma così come vale in tantissimi altri settori. Comunque, sì, seguendo, fermo un attimo lo schema, scusa Roberto, se no qua veramente non usciamo più, cioè tanto abbiamo altre voci, altre puntate, altre puntate. Scusa, comunque io adesso no, lo vai. So dire che Stefano ha letto, dì, bene, mamma mia, cioè. Ah, ok. Tanto lui pensa che Stefano agosto si trova in Finlandia, quindi casa libera. Io non so dove sarò la settimana prossima, quindi figuriamoci ad agosto, quindi non c'è problema. Agosto, vediamo, okay, però sono sempre belle prospettive per l'esistenza. Sì. Qui adesso, seguendo lo schema di risposta Luigi, Stefano, Roberto, Marco, vi farò tre domande che sono le classiche domande che noi possiamo, molto veloci tra l'altro, le classiche domande che possiamo definire capziose, molto tendenziose, diciamo anche faziose, sono quelle domande che vorrebbero portare ad una conclusione, però in realtà poi vediamo un attimo che cosa ne tiriamo fuori, perché ovviamente è anche stimolante il modo in cui approcciamo magari questo argomento, come se io fossi l'avvocato dell'accusa che vi faccio queste tre domande, e sono tre domande che in qualche maniera sono collegate, perché è una vincula, questo... no sono collegate perché in realtà non è che è una domanda unica, sono delle domande che portano verso, ok, quindi sono, è un po' proattive, così. Vediamo proattive un attimo se perché allora la prima domanda è questa. La stampa specializzata di qualsiasi tipo di settore ovviamente si basa, cioè parliamo di rivista tradizionale, quindi in questo caso facciamo anche un piccolo salto indietro nel tempo, si basa su due fattori di sopravvivenza. Uno è ovviamente l'utenza, quindi il numero di lettori, e due è ovviamente lo spazio pubblicitario, che è proporzionato poi tra l'altro a livello di introito a quanta è l'utenza, quindi quanti lettori hai, giusto? Io penso che questo, siete d'accordo su questo oppure no, Luigi? Sì assolutamente sì, Stefano. Assolutamente sì anche io, anche se non si dice assolutamente sì. hai ragione Roberto? Sì. Ragionalmente ni, cioè? Anche se devo anche giustificare, pensavo fosse solo una risposta sexy. Se tu pensavi di cavartela con poco, o sei d'accordo, sì, o sei d'accordo o non sei d'accordo, se non sei d'accordo ci devi spiegare perché. Che la pubblicità non è solamente in questo momento storico dove convivono web e carta, non è derivato unicamente al numero di lettori che arrivano. Ok, ma io ti ho fatto anche una premessa, cioè dicendo facciamola un attimo anche guardandola un po' indietro nel tempo, no? Quindi tornando un po' alla visione della stampa tradizionale, sì. Le riviste, parliamo di rivista, io ti dico, se c'è una rivista ovviamente c'ha un numero di utenti e c'ha un numero di spazi pubblicitari, ovviamente l'introito pubblicitario è proporzionato al numero dei lettori, sì o no? Sì, vabbè, è una, se ragioni così sì, ma competenti dei contestualizzati, posso dirti che da quanto posso dire in questo momento, o quanto è mia conoscenza, spesso in questo momento ci possono essere introiti pubblicitari maggiori verso chi ha comunque un ritorno minore di utenti. Signore e signori, abbiamo Andreotti in trasmissione. Il nostro amico Andreotti che ci è venuto a trovare, sei uscito dall'ospedale. Roberto, no, lo voglio semplicemente bene. Questo dice, parte un esempio stupido, un qualsiasi rivista in Italia che vende tantissimo ha sicuramente meno accessi di quello che può essere un qualunque sito internet. per logica conseguenza dovrebbero avere molti più introiti pubblicitari, però le riviste sono ancora in piedi. Ok, Marco? Ma secondo me comunque è tutto quanto collegato, quindi ovviamente più c'è visibilità, più c'è, c'è utenza e maggiore c'è maggiore pubblicità da arriva, insomma, più è un circolo che comunque è difficile spezzare, insomma. Ok, se la stampa, cioè se la pubblicità è chiaramente così determinante, è determinante a maggior ragione, dal mio punto di vista, in una rivista specializzata, perché che tipo di pubblicità c'è in una rivista specializzata? C'è una pubblicità di settore, chiaramente, o quantomeno indirettamente o direttamente collegata al tipo di settore, è vero o no? Luigi? Sì, penso che praticamente sia vero, cioè se tu, da quello che ho capito la domanda, più è specializzata una rivista e più la pubblicità sarà legata, diciamo, al tema d'orientamento della rivista, giusto? Esatto. Sì, fondamentalmente sì, anche se la prendo molto alla larga, questo è quello che dico tendenzialmente, perché ne so, su una rivista di videogiochi specializzata, chiamiamo specializzata con quell'accezione larga del termine, puoi trovarci una rivista, una pubblicità che parla di fotografia, per dire, e tu allora vedi tecnologia uguale anche fotografia, quindi uguale anche pubblicità sulle fotografie, sulle macchine fotografiche, faccio un esempio. Infatti dicevamo direttamente o indirettamente collegata al settore. Sì, e soprattutto troverai praticamente le riviste della stessa edizione, quindi praticamente troverai, che ne so, sulle riviste, faccio un nome, Sprea, praticamente pubblicità delle stesse, delle tutte le pubblicazioni che fa questo editore. Certo, però la pubblicità delle, diciamo, delle pubblicità a pagamento, esatto, la pubblicità dell'editore stesso nella sua opera non rientra nel quadro dell'introito pubblicitario. Uno sponsor, diciamo, lo sponsor. Beh, sì, però fondamentalmente serve per far sopravvivere l'editore. Sì, l'editore, quindi cioè, questo qua sicuramente ci sta come. Poi devi anche vedere che fetta di mercato ha una rivista specializzata, perché già se è specializzata in sé vuol dire che avrà una certa fetta di riviste su cui, scusa, di lettori su cui si basa ogni pubblicazione, quindi già sa quanto può essere un introito, per dirti. Questo è da prendere sotto gamba, perché è diverso da una pubblicità invece che tu vai a fare su cui un service invece editoriale online in rete deve reggersi, perché là invece si baserà sui click, sui banner pubblicitari, su ciò che gli mette a disposizione l'editore stesso quando va a fare delle cose particolari, tipo quando ci sono delle occasioni, tipo fiere di settore, bla bla bla o altro. Quindi è totalmente diverso il tipo di trattamento. Se mi parli soltanto di rivista, in questo caso sì, io sono d'accordo su quelle affermazioni, cioè tendenzialmente dico vero a entrambe le domande. Sì, tendenzialmente, ok. Sì, Roberto. Sì, è saltato Stefano, però fa niente. No, è uguale. No, dopo, vabbè, dopo lo ripeto. Che ci tengo lui, no? Scusa. Hai ragione. Però una volta ero io il tuo amore, Non so. Ma quando ho scoperto che vivi a Roma e non è alle Maldive, come hai detto. Qui c'è Ostia. Ostia, sì, uno splendore. Ostia non fa la stupida stasera. Allora, inizio una premessa un po' più... Sì, molto semplice, ovvero che l'Olanda è fuori dagli europei, però poi no, ci dispiace, ma è veramente un momento particolare, diciamo, ma anche sti cazzi, aiutami a dire sti cazzi, esatto, io prima o poi qualcuno avrebbe detto ok. No, diciamo che mi rilascio un po' alla prima domanda, nel senso che fino a quando i numeri sono relativamente piccoli è difficile trovare pubblicità che sia esterna al settore. Nel momento in cui i numeri iniziano a diventare importanti è più facile trovare pubblicità anche legata, neanche direttamente o indirettamente, a quello che è il settore di appartenenza. Per intenderci, sulle riviste è molto più difficile trovare pubblicità generalista, sui siti, soprattutto quelli che arrivano ad avere un bacino d'utenza veramente importante, si può uscire da quello che è il settore. Questo perché ritengo che in questo momento spesso chi decida, chi muove i fondi pubblicitari per i videogiochi sia legato a dei parametri particolari che siano meno oggettivi probabilmente di quelli che possono essere di quelli di pubblicità più generaliste, questo sicuramente. Poi ci trovo meglio, che voglio specificare un po' di più questo punto per non lasciare magari qualche dubbio o qualche non detto. Però appunto quello che vedo, questa anche la mia esperienza di quello che vedo girando i siti internet e videogiochi più importanti, mi capita di vedere pubblicità, giusto per dirne una Telecom, uno Sky, che comunque hanno una connessione relativa con quello che è il videogioco, mentre sulle riviste specializzate cartacee è molto raro vedere questa cosa. Sì, però al di là della democrazia cristiana che scende in tra di noi, no? Cioè, io ti ho chiesto a parte l'analisi che mi è interessata, comunque sei tendenzialmente d'accordo con l'affermazione o sei tendenzialmente non d'accordo? No, si capisse un po', lo fa la premessa, non sono molto d'accordo come prima, tendenzialmente no, okay, per entrambe le risposte. Ok, però se io compro la rivista, sì, di caccia, dentro la rivista di caccia ci sta la pubblicità del fucile, ci sta la pubblicità del dado Knorr. Esatto, perché questa rivista di caccia vende poco, quello che sto dicendo ti è questo. Ma è chiaro che The Games Machine non è la Repubblica o non è gente, capito quello che voglio dire? Cioè, io dico che più è specializzato un prodotto, e ovviamente più è collegato anche dal punto di vista dei spazi pubblicitari, perché su The Games Machine che ci trovavo? Pubblicità di videogiochi, al massimo della scheda audio, ma scheda video. Che questa comunque cosa è vero fino a che i numeri in campo sono relativi. Ti faccio un esempio stupido. Sì, ma è chiaro che fino a che i numeri sono... Ma noi stiamo a parlare di un prodotto... Può essere un prodotto specializzato, però che ha numeri altissimi. Ti faccio un esempio stupido, che chiaramente esco dall'argomento videogiochi un attimo, che è più facile. Ho davanti a me il sito della Gazzetta dello Sport. È un sito specializzato, parla solo di sport, giusto? No, non è, scusami, mi spiace, Robè, ma non è un esempio che regge. Cioè, la Gazzetta dello Sport chiaramente c'ha tre quarti dell'home page sul calcio. In Italia praticamente se tu parli di calcio è come se parli di Gesù Cristo, è la stessa cosa, quindi non è rapportabile. Ok, ti faccio un altro esempio. Fammene un altro. Volevo citare il mio sito perché poi sembra che faccia la marchetta o quant'altro. Eurogamer ha avuto per un certo periodo, magari mi ricordo male, l'oggetto della pubblicità della Telecom. Perché ha avuto pubblicità della Telecom? Cosa c'entra con i videogiochi? Perché c'è la DSL, ti fa andare la console, c'entra poco. Ok, questo perché ha raggiunto un numero di utenti tale che era diventato interessante anche per chi concretamente non è interessato al settore videogiochi. Ok, quindi nel momento in cui i numeri, anche se specializzato, che parli solamente di un argomento, i numeri comunque rispecchiano il tuo essere nicchia, è un conto. Nel momento in cui tu esuli da, diciamo, una massa critica, chiamalo un break even point, chiamatelo come volete, che riesce ad arrivare a un bacino utenze sempre specializzato ma ampio, perché comunque anche se una persona è specializzata coltiva anche interessi, non ha coltivo interesse solo videogiochi, quindi tu diventi appetibile anche per altri campi, allora si può muovere qualcosa. Ok, va bene, io dico che sul multiplayer.it anche una volta apparsa pubblicità della Vodafone, però prevalentemente è chiaro perché la massa critica per chi è un po' io sono d'accordo con l'affermazione, comunque l'hai scritta te, grazie al cavolo. No, vabbè, ma io l'ho scritta in maniera provocatoria, non è detto che io debba essere d'accordo o che noi si debba essere d'accordo. Stefano? No, io comunque stiamo parlando di riviste, ragazzi. Cioè, sì, questo, sì, stiamo ancora parlando di riviste, sì, sì. Però vabbè, lui ha fatto l'esempio ai siti. Lui ha fatto l'esempio di Eurogamer, allora io poi ovviamente ho fatto l'esempio di multiplayer, però in generale per ora stiamo ancora parlando di riviste. Poi c'è la terza domanda, che è quella definitiva, dove si scavalca tutto. Ma le leggiamo ancora le riviste noi? Ma che essere o non essere? Dai, io Stefano, qualcosa la leggo come rivista, ma no, non posso fare nomi per concorrenza. La leggo perché c'è Luigi. No, lo sto scherzando, davvero. Io ho smesso. No, io per anni non ho smesso di comprare riviste quando comunque c'è stato il boom di internet. E ho ripreso da poco per leggermi Luigi. Sinceramente, no, lo dico sinceramente. Comunque, tra parentesi, io a me personalmente non me ne frega niente se mettono anche la pubblicità di una sedia a dondolo in una rivista. Cioè, possono metterci quello che vogliono, tanto è sempre pubblicità. Poi, almeno per come sono fatto io, se volete il mio giudizio personale, possono metterci quello che vogliono. Il fatto che non sia collegato non è importante, ecco, per me non è un problema, anche se tale sito, tale rivista mi fa la pubblicità della DSL, per dire, non posso trovarci una qualche forma di correlazione, ma che ci sia o che non ci sia non è un problema, ecco. Cioè, per me non è Non la vedo in termini di vero o falso, la vedo più con un totale disinteresse per quanto mi riguarda, ecco. Più o meno così. Sì, ma ti frega o non ti frega? L'affermazione è di... allora, ragazzi, aiutatemi. No, non mi... cioè, proprio... Io non voglio che voi dite sì o dite no. Io, cioè, nel senso, dite quello che vi pare. Però dico, l'affermazione richiede un'opinione. Al di là del fatto che ci frega o non ci frega, perché manca a me più di tanto, no? Sì, no, dico, ecco, la cosa è questa. È vero che in certi casi, ma il discorso più o meno mi sembra che l'abbiano già, per quanto mi riguarda, mi sembra che l'abbiano già esaurito Luigi e Roberto. Per quanto riguarda questo, mi sembra che abbiano, insomma, spiegato un po' quelle che sono tutte le varie possibilità, sia per le riviste che per i siti. È vero che in certi casi ci sono delle pubblicità più generali, come aumenta il bacino di utenza, e delle pubblicità più particolareggiate quando ce n'è di meno, oppure in altri casi magari la rivista che, ecco, magari quello che posso notare io, la rivista che ha meno, che magari in un periodo un po' così, un po' di transizione, magari può avere anche la necessità di avere degli sponsor diversi, quindi più generali, so, dite come volete. Quindi sì, è vero, ci sono delle cose che spesso non sono logicamente collegate con proprio quei videogiochi, non sono solo pubblicità dei videogiochi, sì. Tutto qui, Marco? Beh, che io per quel poco che so, che comunque se una società deve fare pubblicità su una rivista, su un sito internet o sulla televisione, prima di fare pubblicità comunque va a fare un'analisi di quella che è l'utenza possibile di quel mezzo. Quindi va a vedere chi è, qual è l'utenza media, l'età, il sesso, la religione. Sì, l'orientamento. Su The Games Machine non ci vuole una grande ricerca di mercato. Esatto, perché è specialistica, quindi lo sa bene che su The Games Machine la maggior parte sono ragazzini, Morgan e Stefano Biggio. Stefano Biggio, quindi lo sai perfettamente che devi andare a fare un tot tipo di pubblicità. Sulla Gazzetta dello Sport, che il 90% è calcio, sai bene che non ci puoi andare a fare la pubblicità del Dato Conor, perché sono quasi tutti uomini. Che cazzo vai a fare? Poi domani mattina sicuramente avremo il titolo, l'Olanda esce fuori dall'Europa, però mangia il Dato Conor, magari ci sarà questa pubblicità, non lo sappiamo. Però insomma, prima di fare, diciamo, un investimento pubblicitario, insomma, la grande società va a fare comunque una ricerca, quindi è sicuramente molto mirata la pubblicità, per cui è diciamo direttamente o indirettamente collegata al media che va a utilizzare. Perfetto. Posso, scusa? Allora, solo per collegarmi velocemente, visto che effettivamente sono un po' uscito dal focus, per lasciarmi un esempio magari più vicino. Nel periodo d'oro di Vegas Machine, se andate a vedere anche alcune scansioni, personalmente ritengo ci fosse molto più pubblicità generalista di quanto ce ne sia ora. Tipo? Questo ha fallito. tipo che pubblicità generalista c'era? Street Poker, della Seven, che comunque i Zainetti non è che fossero... Cioè che c'era? Strip Poker di che? Ho acquistato Strip Poker. Bello. Ah sì? E se vedevano le zizze? Sì, sì, c'era anche indirizzo di un negozio di Ostia. Non c'è niente di più nerd che la zizze, insomma. Ma davvero? Sta cosa non la sapevo. Vabbè, comunque. Se tu frequentassi il mio sito, lo sapresti, vedi? Abbiamo le scansioni. No, vabbè, ma io purtroppo ultimamente non frequento più siti, tranne il mio, per ovvie ragioni di tempo, ma non per cattiveria. Insomma, okay. Sapete che io vi voglio bene a tutti, vi seguo a tutti e vi leggo virtualmente e moralmente a tutti anche quanti. Anche per motivi di autodivinazione, soprattutto. Certo, quello soprattutto, perché come dice Morgan, io sono una persona tracotante. Tracotanzizzazione, direi quasi. Probabilmente c'ho la tracotanza che mi si scava. No, comunque, io va direi bene. Di collegarci, cioè, dato che stavamo parlando... Aspetta che c'ho la terza... Scusa, c'ho la terza domanda. Finale. Questa non era la prima, la seconda. Questa è c'è la terza domanda finale, che poi in realtà chiude il cerchio di queste domande secche. Perché fino adesso abbiamo parlato di riviste, però oggi noi sappiamo che la stampa specializzata si è prevalentemente migrata verso il web. Da una parte acquisendo anche una certa indipendenza, perché comunque non ci sono più i costi strutturali, tra virgolette, che potevano esserci prima, e quindi molti siti, anche indipendenti, hanno fatto delle scelte, hanno fatto una sorta di salto della barricata, diventando delle società e quindi diventando delle vere e proprie testate. Però ovviamente qui il rapporto non è più strettamente legato tra utente incasso, perché chiaramente l'utente non ti porta più le 5.000 lire che ti portava prima quando tu compravi la rivista, ma il rapporto della presenza dell'utente è veramente in questo caso proporzionalmente strettamente legata alla pubblicità. Quindi la pubblicità da questo punto di vista diventa estremamente più determinante rispetto a prima, che comunque c'era una sorta di equilibrio tra pubblicità e incasso al giornalaio. A questo punto non pensate che comunque questo rapporto in qualche maniera non crei un fortissimo sbilanciamento per quanto riguarda ovviamente la reale indipendenza? Involontariamente io non sto parlando di disonestà, sia chiaro, perché non stiamo parlando di questo. Io parlo comunque la pubblicità di settore, chiaramente in qualche maniera condiziona la vita di un sito e di conseguenza ne condiziona anche in parte o parzialmente o involontariamente anche un po' i contenuti, sì o no? E Luigi? Oddio, per quanto riguarda la vita di un sito, immagino sicuramente, nel senso che da quando si trasmette tutto quanto su web, la produzione che prima era solo esclusivamente cartacea, hai questo gioco forza la tenaglia che è legata agli introiti pubblicitari, quindi quanta gente visita, quanta gente clicca sui banner, la pubblicità in diretta, le entrate che il service riesce poi a poter anche gestire per poter pagare i vari collaboratori delle riviste del sito. Apro una parentesi, conosco senza fare nomi ovviamente delle riviste invece cartacee per cui dietro nomi diversi tutte le firme magari vengono accoppate invece su una o due persone, quindi ti sembra di avere tanti collaboratori, tante firme diverse dentro la rivista cartacea, in realtà invece ne sono una o due persone che scrivono tutta la rivista. Questo perché? Perché è molto più facile magari lavorare su dei contenuti che sono su una rivista che offre molti meno contenuti dal punto di vista della diversificazione di stessi, cioè ci sono sempre queste stesse anteprime, gli speciali eccetera, quanto invece è più difficile lavorare sulle varie rubriche che possono comporre invece un sito online che tende a specializzarsi su vari tipi di voci e quindi più collaboratori, più produzione e più necessità di entrate da questo punto di vista. E la seconda invece domanda che dici è se questo influisce sui contenuti. Non penso che ci sia un rapporto diretto fra le entrate pubblicitarie e i contenuti. Io direi più che altro che c'è un rapporto diretto fra le entrate pubblicitarie e il donare più servizi, ecco, fondamentalmente al lettore. Penso al caso emblematico di multiplayer.it che ha un ottimo servizio editoriale all'interno, ma ha anche proprio un'editoria che si è creata all'interno stesso, dove ha accorpato entro di sé pubblicazioni specializzate sul tema, quindi sto parlando di libri, sto parlando di un negozio, un mercatino che c'è una sua distribuzione eccetera. Da quel punto di vista potrei dire che l'entrata pubblicitaria ha influenzato anche la diversificazione dei contenuti e dei servizi che offre, ma non il contenuto, mi sembra, come lo intendi tu, cioè la qualità di ciò che viene scritto o l'influenza di ciò che viene scritto rispetto alla pubblicità. Penso che quelli sono sempre comunque tendenzialmente o fondamentalmente indipendenti. Che io sappia, per mia esperienza, non dico personale perché non scrivo all'interno di riviste online, però per persone che, insomma, che conosco, non c'è un controllo editoriale o di contenuti da parte del publisher, insomma, del service editoriale rispetto alle pubblicità. Ci sono molte volte delle voci che si fanno sentire da parte del distributore, facciamo così, il distributore, che a molte volte quando viene appioppato un determinato tipo di voto si parla in un certo modo di un videogioco e la distribuzione è in diretto contatto con il sito, allora magari può chiedere come mai non è piaciuto quel tipo di esperienza o come mai se ne è parlato in un certo modo, ma non che va a influire all'interno della firma stessa dal punto di vista proprio stilistico di contenuto. Questa è la mia esperienza, più che altro. Sì, no, guarda, pensa che sono anche abbastanza d'accordo. Oddio, questa è un'esperienza quindi limitata a quello che conosco, poi magari non so se in altre parti del mondo, come diceva prima Roberto, dove il publisher assume una ridondanza molto più grande, pensiamo a un mercato tipo quello dell'America, e allora in quel caso magari forse può Sì, il problema è che, vabbè, poi qui poi passiamo a Stefano, è che tendenzialmente, perché poi quello che volevo far capire è che queste domande, anche se molti dei giornalisti a cui sono state poste anche in altri podcast e si sono un po' incazzati perché giustamente viene anche un po' lesa la loro deontologia dal punto di vista professionale, in realtà queste domande sono sì le domande della serva, però è vero pure che sono anche domande legittime, no? Perché quando tu vedi che all'interno di un portale molto importante ci sono delle pubblicità estremamente massicce o invadenti anche dei tre publisher, anzi dei due publisher più importanti, e vedi che all'interno dello stesso portale, come di tanti altri portali anche minori, ci sono degli store, pensi sempre, ok, però a me se io fossi la rivista potrei fare sto ragionamento, perché dovrei parlare male di un qualcosa che non solo mi porta soldi dal punto di vista pubblicitario, ma addirittura lo devo vendere. In realtà invece poi io, anche avendo conosciuto delle persone anche in maniera diretta, avendole anche intervistate, insomma, sono abbastanza convinto di quello che dice Luigi. Io penso che in Italia la dimensione è ancora tale che la maggior parte di queste persone lo fanno ancora veramente per passione e per convinzione rispetto a quello che fanno. Poi è chiaro che alcuni hanno assunto un livello di professionalità superiore rispetto ad altri, però penso, insomma, che lo spirito sia ancora rimasto quello, quindi sono abbastanza d'accordo con Luigi da questo punto di vista. Sì. Stefano. Allora, io porto in questo caso la mia esperienza diretta con multiplayer.it, che faccio l'esempio per quanto riguarda i libri che loro stessi pubblicano, mi hanno sempre lasciato una totale libertà di giudizio, cioè non mi hanno mai detto o dato delle linee guida. Perché, Stefano, ricordiamolo che ti passano i libri per farti imparare a leggere. È vero. No, infatti, oltre a dietrologia ci sono stati i libri di multiplayer. Esatto. Leggo i libri illustrati, capi, quelli con le lettere molto grandi, una lettera per pagina, cose così. Quelli dei bambini, insomma. E poi la pagina dopo ce ne sono due. Cominciando al cielo ci sono molte figure. Esatto. No, quelle la maggior parte sono occupate da figure, le pagine. Ci mancherebbe, no? Non sono così bravo. Comunque, no, io dico, loro non mi hanno mai dato una linea guida o un qualcosa, non mi hanno mai detto, no, guarda, di questo libro qui dovresti parlarne bene. Nonostante sia pubblicato da loro stessi, siano gli unici editori in Italia, quindi non è che dici io questo libro me lo vado a comprare da un altro, o te lo compri da multiplayer o te lo compri da multiplayer. Però no, sono sempre stato io personalmente molto libero per quanto riguardava le mie recensioni, per quanto riguarda anzi le mie recensioni. Mi ha detto di quello che vuoi, e quando c'è da parlarne male ne parlo male, non mi pongo il problema del fatto che magari questa mio giudizio eventualmente negativo su certe cose sia come dire, possa danneggiare quello che è le vendite poi. E loro in primis sono stati così corretti, diciamo, cioè questo per me è un esempio di correttezza da non dirmi non fare questo, non scrivere quello, ecco. Quindi secondo me sì, c'è ancora un buon livello di onestà nei confronti dell'utenza. Cioè il fatto che ci siano delle pubblicità è solo da come lo vedo io, per il fatto che giustamente loro offrono un servizio di tipo gratuito in generale, questo non sto parlando di multiplayer, sto parlando proprio di tutti i siti, quindi in qualche modo tu ti leggi la recensione e loro hanno un certo ingresso economico grazie allo sponsor, dato che appunto è venuto a mancare l'acquisto della rivista cartacea. Quindi secondo me questo è il modo che si ha per bypassare, diciamo, il vecchio percorso casa edicola, ti do i soldi poi in parte vanno al publisher e così via. Quindi secondo me non c'è le riviste e i publisher, scusate, i siti sono rimasti totalmente indipendenti per quanto mi riguarda. Poi questo è il mio pensiero, non so, Roberto, per la tua esperienza, tu hai mai, cioè, ti è mai capitato di, non lo so, non penso che tu ti sia mai sentito in dovere di fare delle recensioni positive, almeno sì, no, lui ci si è comprato casa, a parte no, magari proprio lui la persona sbagliata, non dico, magari in generale, ecco, mi sembra che non ci sia, per la mia breve esperienza dall'ultima ruota del carro, la cosa di questa recensione la devi fare assolutamente buona, oppure evita completamente di nominare il fatto che boh, la grafica fa schifo. Cioè ci sono anche delle linee guida, ma sono molto a discrezione del redattore, ecco. O mi sbaglio, Roberto? Roberto risponde. Allora, Roberto risponde? Diciamo che sicuramente... per quanto riguarda appunto la mia esperienza, con le diverse collaborazioni che ho avuto, diverse così almeno me la tiro un po', anche se non è molto vero, diciamo che non ho mai avuto delle imposizioni. Posso dirti che mi è capitato inconsciamente, nel caso in cui era un gioco particolarmente importante e il giudizio non era così positivo, di pensarci. Poi ti dico, fortunatamente o sfortunatamente, vedete voi, non ho mai cambiato quello che era la prima impressione, nel senso che se era un 7 era un 7, anche se ci ripensavo. Diciamo che magari qualche remora ti veniva, non per altro, perché hai pure qualche ritorno di odio o di bombe carta sotto casa, ma semplicemente perché se pensi ai soldi investiti per creare quel gioco, a volte ti sembra difficile comprendere che cavolo è venuto fuori, questo sicuramente, quindi... È più quello. Ma guarda, secondo me, cioè, uno non dovrebbe neanche sentirsi così in dovere di pensare: ah, guarda, questo gioco ci hanno lavorato tante persone. Cioè, noi, insomma, le persone che i redattori fanno parte di un meccanismo. Che gira proprio attorno al videogioco in sé, quindi uno facendo parte di quel meccanismo non deve preoccuparsi se lo sta danneggiando. Noi, cioè, uno sta comunque facendo funzionare, ecco. Poi se positivo o negativo, questa è un'altra questione, però il ruolo dovrebbe essere appunto quello di fornire un parere, poi più o meno oggettivo. Questo cambia da persona a persona. Mi sono spiegato male forse, nel senso, non intendo danneggiare, ma appunto è a fronte di un investimento corposo, la domanda in più che a volte mi capita di fare è: come è possibile che il risultato sia questo? Non perché... Ok. Quindi mi è sfuggito qualcosa a me, adesso hanno investito 50 milioni di dollari e vedo una schifezza. Cavolo, sì. Probabilmente sono io che ho perso qualche passaggio, non ho visto bene il gioco. Poi purtroppo non è mai capitato di essere smentito, anzi, un titolo, giusto fare un esempio, un titolo che ho avuto la fortuna di recensire, Mafia 2. Per me è sostanzialmente un bel gioco, però più dell'8 che, se non ricordo male, gli ho dato, non potevo dargli, ma non perché fosse un gioco brutto, ma perché non aveva personalmente l'anima. È dato 8. È pure troppo. Per me la scala vanno a 10, quindi 8 non è questa eccellenza fantastica, capito? Vabbè, no, ma infatti... No, nei videogiochi no, in effetti. No, ma anche sulla questione dei voti, poi un'altra questione. Per me l'8 è un voto molto alto, cioè almeno io che sono un ipercritico, più o meno per tutto. No, cioè, ma nel cinema, in una recensione cinematografica, 8, cioè, nel senso, è un filmone, no? No, beh, forse sono più legato a quel canone, videogioco, allora, un film personalmente. Il film di Vanzina può prendere mezzo, neanche uno. Nel mondo videoludico un bel 6, 7, 8 lo può prendere, però un film di Vanzina è quello, cioè secondo me sono i voti, forse, vabbè, sono talmente diverso proprio il contesto. No, ok, no, ma in generale quello che ho sempre pensato io è che i voti proprio in generale siano un po' tendenti verso l'alto, cioè più verso il 10 che verso il basso. Io personalmente, se ad esempio mi chiedessero di dare un voto a Mafia 2, visto che ne stavamo parlando, gli darei un 6 e mezzo forse, capito? Cioè proprio è un buon gioco, sufficiente, più che sufficiente, ecco, però non è buono, non è discreto, non è eccellente. Si ferma lì per quanto riguarda Mafia, quindi forse appunto uno magari si pone il problema, come nel tuo caso Roberto, e poi alla fine è anche troppo buono nei suoi confronti. Poi ovviamente ognuno ha i suoi modi e i suoi canoni, ecco. Mafia 2 un po' particolare. No, perché viene comunque da un predecessore a suo sì, tempo. Sì, sì, no, dico, nel caso di Mafia 2, ok, uno ci deve mettere in mezzo tante cose. Poi appunto c'è anche il giudizio personale, per il quale, insomma, magari per te un 8 è basso, per me un 8 è alto. Questo magari anche la scuola, insomma. Il mio è stato uno dei più bassi a livello mondiale, nel senso che la maggior parte sono testati sotto i più alti. Poi c'è stato qualche anche sono stati anche le 4. No, no, ma cioè veramente è vero comunque questa cosa, perché poi ecco, questo magari nella parte finale ci arriviamo anche, perché poi stiamo arrivando un po' forse magari anche al succo della questione. Io comunque la domanda che vi ho posto è quanto comunque la pubblicità e quindi comunque la presenza dei publisher condizioni, tra virgolette, direttamente o indirettamente, la stampa specializzata, soprattutto oggi che la presenza delle pubblicità è molto più determinante rispetto rispetto al passato. Comunque fino adesso, insomma, diciamo che tendenzialmente siamo tutti abbastanza d'accordo che perlomeno in Italia non c'è tutto sto condizionamento, se non magari un condizionamento emotivo, cioè nel senso che comunque magari uno dice vabbè, però prima di scrivere una merda magari ci penso due volte, oppure lo scrivo, invece di scrivere in una parola lo scrivo in sei righe cercando. Non è una merda, non è proprio una merda, ma è insomma un escremento. Potrebbe lasciare, è un prodotto di rifiuto ovviamente. Potrebbe lasciare interdetti, diciamo così, perché so un minimo, no ragazzi, non è che possiamo fingere, no Marco, tu non hai spesso. Sì, scusa un attimo, non ho concluso proprio per rispondere poi più direttamente a quello, anche alla domanda di Stefano e Simone, che secondo me che più che indipendenza, quello che ha creato il circolo pubblicitario che si è creato è una mancanza abbastanza diffusa di qualità, questo sicuramente, che questo forse bravo. E secondo me non è una questione di onestà non onestà o addirittura essere influenzati o meno, secondo me c'è, cioè, anche perché al giorno d'oggi vabbè Marco, poi dopo esprimi la tua considerazione. Svegliatemi, intanto faccio un titolino. Il problema è che probabilmente al publisher, secondo me, non interessa neanche il voto realmente 9.9, interessa ovviamente tutto il movimento che sta dietro, e qui parto da Marco, va giusto per giustizia divina, interessa più tutto il movimento che sta dietro al proprio prodotto, quindi che ne so, eventi particolari di presentazione dove si danno magari degli spazi in esclusiva a tal portale piuttosto che altri, embarghi temporali, possibilità di avere un codice prova prima del tempo affinché comunque dal periodo in cui è stato annunciato il gioco al momento in cui uscirà, le riviste hanno l'opportunità di poter parlare più e più volte di quel titolo e comunque far movimento, quindi comunque diciamo che loro nel meccanismo buttano dentro roba e probabilmente del voto in sé potrebbe anche non fregargliene, o gliene frega, non gliene frega. Marco, secondo me poi gli frega, poi gli frega, perché poi comunque ma gli frega più del voto o di tutto il movimento secondo te? Più del movimento, secondo me, innanzitutto del movimento, creare l'hype come si dice, quindi creare l'aspettativa, poi dopo il voto è secondario. Certo che se prende un brutto voto potrebbe risentirne la vendita, ma anche lì è relativa, perché secondo me poi alla fine chi se lo vuole comprare il gioco se lo compra lo stesso, secondo me, la maggior parte. Poi c'è quello che magari aspetta un pochino per vedere se vale la pena spendere quei soldi e magari se lo compra usato o se lo compra più tardi, però secondo me punta più che altro al movimento e poi al voto. Ma la domanda praticamente era sul fatto dei publisher della pubblicità, cioè su come sono quella di prima. Beh, sì. Vabbè, oramai che ormai posso andare avanti, ormai possiamo andare avanti, ormai, cioè, quello, vabbè. Comunque diciamo che secondo me c'è una correlazione, perché poi alla fine vai a essere un sito che praticamente fa recensioni e ha un certo numero di contatti, proprio perché comunque hai la possibilità di interfacciarti con diversi publisher che ti danno i codici, come dicevi te, ti invitano agli eventi e via discorrendo. Se ti arriva poi effettivamente un gioco che fa cagare, poi è vero che ci pensi, perché poi dici ma oggi mi hanno dato sto codice, poi me la danno domani me la danno esclusiva temporale, perché poi è quello il discorso, no Luigi? Cioè secondo te, sì, se tu scrivi la recensione di Assassin's Creed 3 e dici, sì, che comunque è un gioco prevalentemente mediocre, secondo te Ubisoft la, sì, prossima volta te la dà l'esclusiva temporale sul codice prova del prossimo gioco? Aspetta, o ti invita in esclusiva? Dobbiamo fare a te una premessa però, perché in questo caso stiamo parlando di Luigi Meroni, che è stimatissimo da Ubisoft, l'altro, perché se no se arrivo io che gli faccio una recensione di merda ovviamente all'Ubisoft gli ne frega la cippa, no, però se gliela fa Luigi Marrone ma è chiaro, noi stiamo parlando Luigi Marrone nel senso come se Luigi Marrone fosse Pierpaolo Greco, tra virgolette, per non fare numeri a casaccio. Qua tra l'altro voglio fare una premessa, perché sicuramente conoscendo un po' il pubblico che ascolta i podcast e soprattutto quelli che ascoltano i podcast dei videogiochi, qualcuno andrà a dire a qualcun altro, dice oh quel podcast hanno detto che tu rubi, cioè perché lo so che è così, quindi prima che voi cominciate a dire, noi abbiamo fatto dei nomi su questo programma, ma l'abbiamo fatto perché multiplayer.it, Spazio Games, Every Day, Eurogamers. So, voglio dire, cioè, nel senso, sono questi i portali di un certo tipo di rilevanza. È chiaro che se uno parla, parla di The Games Machine, quando parla di una rivista, parla di K, di Z, parla di queste riviste qua. Non perché noi pensiamo che siano i soggetti in questione, stiamo facendo un discorso assolutamente sui generis, insomma. Comunque, torniamo a Luigi. Dico, Luigi, Ubisoft, sì, all'evento speciale, alle Figi, ti ci porta, sì, a te in esclusiva, oppure ci porta Mario Rossi poi, oppure ti scarica solo dall'aereo a metà strada, perché questo è un po' anche il discorso dove volevo poi arrivare io, nel senso. Ma vai, guarda, io penso che alla fine, quando si investe nel marketing pubblicitario, soprattutto nel far conoscere una nuova IP oppure nel consolidare quello che è un brand, una serie, l'importante è che se ne parli, cioè questo è. Quindi non stanno a vedere parlato bene o parlato male o i voti o altro, per quanto il voto sia un bisogno proprio umano, quindi come funziona stesso Metacritic che ha avuto, ha spopolato, perché ovviamente la gente ha in mente, vediamo come se ne parla mondialmente di questo titolo, che poi è una grande buffoneria fondamentalmente, che si basa su criteri sballati. Sì, vabbè, Metacritic meriterebbe proprio un capitolo. Sì, vabbè, ho evitato di parlarne apposta perché lo sapevo. Sì, anche noi l'avevamo incluso su questa puntata, ma poi secondo me veramente rischiavamo. Sì, ma infatti puoi tagliare tra parentesi. Non abbiamo parlato perché. Esatto, infatti, ecco, perché poi ne parleremo comunque prima o poi di Metacritic, ne parleremo magari contestualizzato in uno specifico argomento che noi e Marco già sappiamo. Signor Metacritic, parleremo di te. Sì, sempre, soprattutto per quanto riguarda Bethesda, che è una bella accoppiata vincente. Un giorno ci ameranno moltissimo. Povero Simone Pizzi. Lo sai che fessato da Bethesda, manda i Men in Black in giro. Sì, sì, no, sai che mandano i Men in Black in giro per uccidere la gente. Quindi, sai, insomma. Sì. Poi ti ritroverai il viso di Simone, forse anche il mio, sul prossimo gioco della Bethesda, che sarà Fallout 4. Fallout 4, che sarà il cattivo di turno che verrà ucciso con un colpo in testa. Il Pizzi. Il Pizzi. Comunque, Luigi, scusa. Comunque, sì, niente. L'importante è che se ne parli. Questo è importante. Anche se se ne parla negativamente, non ha importanza. Anzi, come può benissimo testimoniare, visto che l'ho letto, Stefano, il libro di Kushner, quello sopra Grand Theft Auto, se ne parlava negativamente era ancora meglio, è una vittoria, perché poi attiri l'attenzione della gente o altro. Ovviamente non è che bisogna parlare negativamente, è un caso specifico, Sì, non tecnicamente, però ti dico che comunque le controversie su un videogioco poi puntano comunque l'attenzione, la distolgono magari da altro. Per parlare a Ubisoft, per esempio, Assassin's Creed Revelation, che è stato abbastanza criticato dal punto di vista della ridondanza che c'è rispetto anche agli altri capitoli, che non ha nulla di nuovo, che non aggiunge, stesso gioco, eccetera, ha venduto tanto, cioè ha venduto, comunque è stato comunque considerato, perché se ne è parlato proprio in questo modo qui, cioè non sembra, però perché se ne è parlato, c'è tanti buone produzioni che vengono taciute, anche in fiere importanti tipo l'Electronic Term Expo che si è appena chiusa a Los Angeles, cioè pensate che praticamente ci sono dei titoli che sono sfuggiti agli stessi giornalisti, facciamo così, specializzati, perché sono stati attirati da altro, ed erano titoli che avevano un'importanza fondamentale, cioè per quanto riguarda l'innovazione o ti posso dire altri aspetti. Io sono venuto a conoscenza di questa cosa qui leggendo sulle nostre riviste online, e là ho detto, guarda, non se ne è parlato, peccato, si è parlato magari di tanta altra schifezza, immondizia o roba inutile che ce n'è stata purtroppo, e non invece di cose di cui valeva la pena davvero soffermarsi. E questo, quindi, ti posso assicurare che chi si occupa di marketing vuole che se ne parli, l'importante è questo. Quindi anche tu sostanzialmente pensi che in realtà, come dicono anche tanti giornalisti, la valutazione in sé su un prodotto, quindi sulla recensione di un videogioco, in realtà a livello di vendita conta fino a un certo punto. Beh, guarda, non ti so dire adesso che rapporto c'è fra il voto di una rivista o un voto totale di Metacritic, eccetera, e la vendita di un videogioco. Io veramente conosco di esperienze legate a ottimi videogiochi che hanno avuto però scarse vendite, perché sono passate inosservate, perché magari sono uscite a ridosso di altre produzioni che le hanno offuscate, o il periodo non era buono, oppure magari si era a cavallo fra una console e l'altra, la vecchia e la nuova generazione. Ci sono tanti motivi per cui un gioco non vende, non è soltanto legato al voto, è veramente un insieme di fattori, però non penso sia strettamente correlato. No, perché cioè, io ti dico la mia esperienza personale, forse magari farò anche la figura del cretino, Heavy Rain l'avrei comprato anche se gli avessero dato 4, cioè nel senso era un qualcosa che aspettavo comunque, e anche per avere l'opportunità di avere una mia valutazione soggettiva piuttosto che basarmi sulle valutazioni soggettive di altri, no? Perché comunque ero curioso, no? E quindi comunque probabilmente determinati, no, vabbè, se ci avessi avuto 4 probabilmente no, però insomma non mi sarebbe cambiato, insomma, dall'8 al 9.5, insomma, quindi questo è un po' il discorso. Io penso che forse al giorno d'oggi il fan o comunque la persona che attende quel gioco, che oramai è stato, come abbiamo detto, pompato magari tramite gli eventi, le preview, essere parlato e drink, alla fine comunque è talmente carico di sto gioco, dell'hype che più o meno, a meno che proprio non sia a 8 bit, insomma, se lo compra il gioco. Forse, penso, no? Come ho detto pure prima, più che altro può andare a incidere sul quando lo vai a comprare. Magari non lo compri al primo giorno e dici: aspetta, qua ce li girano tutti i quattro, aspetta un po', vediamo com'è. Magari lo compri quando scende un pochino di prezzo. Forse può incidere più che altro nel momento della vendita, e quindi su quanto poi va a far guadagnare il publisher che lo vende. Forse è più quello l'importanza. Luigi. Sì, cioè io penso che bisogna domandarsi sempre perché ci ha preso un determinato tipo di esperienza rispetto a un'altra quando si va a fronteggiarla. In questo caso il videogioco, ma ti posso parlare anche di l'ultimo romanzo che è uscito, o comunque l'ultimo disco del nostro artista preferito, o via discorrendo. Cioè noi abbiamo dei meccanismi, secondo me, anche proprio mentali, che ci portano a una dimensione di considerazione collettiva della realtà, in questo caso del videogioco, che è strettamente legata a quanta pubblicità e quanto se ne parla. Cioè questo è inevitabile, cioè tu eri curiosissimo di Heavy Rain, ma anche perché Heavy Rain te l'hanno pompato tantissimo, e cioè non si può non nascondere questo aspetto qui. A prescindere dal voto, è stata una cosa veramente che finalmente l'esclusiva Sony PlayStation, il gioco interattivo di David Cage che non si ripresentava alle scene dopo Fahrenheit, e cinema e videogioco. C'è tutto un aspetto legato al dire è vero, su questo sono d'accordo, ma anche se io sono caso a parte, io da quando ho finito Fahrenheit per 2 anni e mezzo andavo in giro una volta a settimana, andavo sul sito da Quantic Dream per vedere se usciva qualcosa, cioè, no, ma guarda, ti dico una cosa, Simone, tu non hai idea di quante copie di Viren usate sono state riportate poi indietro. Cioè nel senso che la gente l'ha giocato frutto da questo hype, e poi le portate indietro tante quanto erano Pro Evolution Soccer al tempo, mi ricordo, dopo che la gente l'aveva finito. Questo che vuol dire? Vuol dire che non era legata la gente all'esperienza artistica in sé di Viren, che ha custodito, come ho fatto io ad esempio, che poi ho incontrato David Cage e me lo sono fatto anche firmare, autografare, per dire, e lo hai baciato. Questo per... David Cage diciamo che ha baciato, stato... lui è diverso. Luigi Maroni. Non parla un buona inglese americano. No, quello che vi dico però è questo, prende, è stato riportato indietro perché? Perché tanta gente l'ha giocato, magari manco gli è piaciuto, eccetera, però la curiosità che l'ha mossa, i meccanismi che presiedevano a questa curiosità erano gli stessi tuoi, Simone, così come sono stati gli stessi miei e di tantissima altra gente. E questo per dire che sto leggendo proprio adesso un libro, adesso facciamo un po' di cultura trasversale, sempre di William Burroughs. Il libro si chiama è arrivato a Puck, o comunque contiene dentro un piccolo saggio chiamato Il libro della rivoluzione elettronica, e parla di quanto a livello subliminale possiamo essere influenzati se un determinato tipo di contenuto, di messaggio che noi facciamo passare per istituzionalizzato, ad esempio che ne so, apriamo la Repubblica, tanto per citare una qualcosa, terremoto in Emilia Romagna, per dire, prendiamo questo un telegiornale, facciamo così, e ci tagliamo dentro altre cose che possono andare in qualche modo a moralizzare o a modificare o a ritoccare verso la sdrammatizzazione o l'iperdrammatizzazione un determinato tipo di contenuto e di informazione, e vedrai che la gente si comporterà di conseguenza. Barox fa l'esempio di dire una piazza affollata, a un certo punto tu da un altoparlante fai partire uno sparo e una persona si butta per terra, magari anche fingendo, troverai scritto sui giornali l'indomani che c'è stata praticamente una sommossa, non si sa di chi ha sparato, e la gente ha cominciato a prendersi a sassate o a scappare o a morire calpestata da se stessa. In realtà non è successo nulla, è stata un'informazione che ha richiamato l'attenzione e che ha creato poi questo precedente. Questo perché a livello mentale noi siamo influenzati dalle informazioni da come ci arrivano, dalla ridondanza che hanno e dalla risonanza dentro di noi. Ecco che quindi Heavy Rain ha avuto una risonanza pazzesca e ha influito sicuramente sulle vendite, non per come se ne è scritto, assolutamente, ma sicuramente come è stato promosso. Ecco perché è importante che se ne parli di qualcosa, perché andrà a toccare la mente e a focalizzare l'attenzione su quell'aspetto e non magari su un altro che invece potrebbe avere per contenuti altrettanta importanza e rilevanza, se non di più. Faccio questo esempio. E quindi purché se ne parli? Purché se ne parli? La regola per cui in letteratura si dice show me, don't tell, cioè non dirmelo, mostramelo, fammelo vedere, ecco, certo. La pubblicità è tutto un mostrare fondamentalmente, che poi va a inficiare la vendita, sicuramente il risultato finale. Okay. Questo, scusatemi la grande parentesi. No, va benissimo, anzi tu sai che insomma c'è Morgan che non vedeva l'ora, insomma, che tutto Morgan, quindi è bellissimo questa cosa. Voleva prenderla sulla, veramente ho preso magari la tangente, però in lungo e largo l'ho presa, però hai fatto bene. Che poi tra l'altro secondo me uno dei motivi, cioè uno dei pecchi di Heavy Rain è il doppiaggio di Pino Insegno, che tra l'altro secondo me non c'entra assolutamente niente. Va bene, allora Roberto, poi Stefano, poi Marco, su questa questione qua, insomma, più contano o non contano i voti, o cioè contano più i voti o contano più tutti gli eventi e tutto il trick e ballac collaterale? Robè, sei andato via? No, sto grandinando, sto appena sito in sto grandinare qua, Cantù. Sentite casino anche voi? Eh sì, un bel po'. Si sente? Sì. No, allora inizio io. Io mi ricollego a quello che aveva detto precedentemente Luigi riguardo al fatto che l'importante è che si parli del gioco. Adesso torno un po' indietro, perché io volevo portare l'esempio di Rockstar, appunto. Cioè Rockstar ha fatto in tutti i suoi giochi il fatto di esserne, di parlarne male, il proprio punto di forza. Non parlo solo di GTA, ma tutti i giochi Rockstar sono stati estremamente criticati, al di là forse di Warriors o Red Dead Revolver e Red Dead Redemption. Più o meno tutti gli altri, Manhunt non ne parliamo, vietato addirittura in certi paesi. State of Emergency è troppo simile alle rivolte di, dove era? Sì, in Atlanta, mi ricordo adesso. GTA, adesso non entriamo proprio nell'argomento, cioè loro hanno basato proprio tutta la loro campagna, da GTA 1 a GTA 5 che sta per uscire, sul fatto che fosse un videogioco discusso in maniera negativa. Poi per carità. Sì, però lì c'è una. Sì, però quello secondo me è un esempio estremo. Cioè, sono d'accordo con il concetto che avete espresso tutti e due. Però, cioè, su GTA Rockstar è comunque un concetto un po' estremo, perché, cioè, nel senso è un esempio un po' estremo, perché in realtà lì tutto si basa, esatto, su quello. Esatto, no, ma io stavo portando. Cioè, sto portando l'esempio del fatto che comunque loro ti portano dei giochi di cui se ne parla male, diciamo, in generale, o comunque vengono tacciati sempre come giochi violenti che istigano la violenza, e allo stesso tempo sono dei giochi che ricevono dei voti altissimi, fanno delle campagne pubblicitarie e sono vendutissimi, perché sono comunque dei bei giochi. Cioè il fatto che del gioco se ne parli male non vuol dire che si venda poco. Questo secondo me è proprio il fulcro di tutta la questione. Cioè, ok, è un esempio estremo, però non è un gioco violento e basta, cioè se ne parla male e basta, prende anche dei votoni come gioco in sé, cioè come grafica, come gameplay, come tutto. È un grande gioco, cioè sono dei grandi giochi, soprattutto nell'esempio di GTA, quindi il fatto che se ne parli male non preclude delle vendite buone, anzi sta coadiuvando il fatto che ci sia alla base un forte interesse per quanto riguarda quel gioco, un forte interesse da parte dei programmatori nel renderlo bello, nel renderlo eccellente. Quindi d'accordo con Luigi sul fatto che sia che l'importante è che se ne parli. Poi è vero che Rockstar è un discorso a parte. Se il gioco è proprio brutto e tutti scrivono male di quel gioco, non lo so, Nerf Arena Blast non è che sia questo capolavoro. O quello, io mi ricordo cos'era, il gioco meno votato della storia, mi pare, da PC Gamer, che era tipo Extreme Paintball, una cosa così. Mi pare che avesse preso 3 su 10, 2 su 10, era un voto osceno. Quel gioco lì non ha venduto un cazzo, cioè nonostante fosse il gioco meno recensito peggio della storia, in quel caso lì ha comunque venduto poco perché il gioco era brutto. Quindi non c'è solo la parte che riguarda la votazione sulle vendite, ci deve essere comunque alla base una certa capacità da parte dello sviluppatore di crearti un gioco buono, nonostante poi sia se ne parli in maniera negativa in generale, questo è non solo del gioco in sé. Quindi questo lo vedo così. Quindi tu non credi che un publisher sia in grado o sia nelle condizioni di poter ritirare dei privilegi, delle esclusive a un, no, allora, a un tale portale? Io penso che se hai una certa importanza, probabilmente hai anche interesse nel fare una recensione che sia un po' trasversale, che vada oltre il solo fatto di parlarne in termini di bene o male. Cioè che tu spieghi il gioco e poi magari dai il tuo giudizio, ma il fatto che magari il tuo giudizio non sia positivo al publisher non importa più di tanto. Poi è chiaro che se fai una recensione estremamente negativa, io trovo che sia sensato in termini commerciali, di marketing. Cioè tu azienda hai una persona che parla bene di te e che quindi ti può portare dei clienti in più. È chiaro che cercherò di farmi promozione con quell'azienda piuttosto che con quella che ti parla ne parla male del gioco. Quindi da questo punto di vista io trovo, cioè accetto il fatto che un publisher tolga dei privilegi a una certa casa, una certa redazione, ecco. Perché non lo condivido, cioè io personalmente direi devo stare io più attento a creare un gioco migliore da certi casi se tutti me l'hanno recensito in quella maniera o se la maggior parte me l'ha recensito in quella maniera. Però nella logica aziendale, nella logica capitalista, cioè parliamoci chiaro, proprio della vendita pura, ha senso questa cosa. Non la condivido, ma ha senso nella sua visione economica, ecco. Quindi sì, se c'è la possibilità e lo fanno, io lo capisco. Non lo condivido, ma sì, lo capisco. Sì, capisco, capisco. Tutto qui. Ma secondo te lo fanno? Secondo me no, sì, secondo me lo fanno, sì, assolutamente. Sì. Cioè lo possono fare? No, lo fanno, no, secondo me non è che lo possono fare, secondo me proprio lo fanno attualmente. Lo fanno proprio, eh? Sì, sì, sì, cioè lo fanno proprio, se... Ma pure secondo me comunque, cioè... Ha senso il fatto che lo facciano. Perché comunque bisogna vedere però se il gioco è, diciamo, noi partiamo dal presupposto che uno dà un voto brutto mentre tutti gli altri lo danno bello. Perché siamo partiti dal presupposto che sono tutti dei venduti. No, per carità. Io penso che siano proprio tra i pochi campi in cui si va avanti mossi dalla passione, sì, non so, quindi proprio l'esatto opposto. Non vorrei che poi dicesse che io ho detto questo perché... Diciamo che se il gioco fa cagare, sì, teoricamente tutti quanti dovrebbero dare un brutto voto. Ok. Diciamo che se tu hai comunque una certa tra virgolette sudditanza con la EA o la Ubisoft, la vatte la pesca, mm-hmm, perché lui ti passa i codici, ti invita, ti dà un codice in un gioco ed è una merda, prima di recensirlo ci pensi due volte e magari ti vai a vedere le recensioni degli altri, quindi per vedere anche forse allineati. Non è sempre possibile proprio... questo, perché magari tu hai l'anteprima, esatto. Faccio un esempio, tu cazzi. No, questo poi è una cosa che diciamo diremo proprio all'ultimo, come ultimo intervento, proprio sul fatto del tempismo della recensione, che secondo me comunque anche quello in qualche maniera inficia la validità reale di una recensione, che spesso e volentieri devono essere talmente veloci a dover far uscire un qualche cosa magari a 3 giorni dal codice prova arrivato in redazione, che oggettivamente approfondita come fanno a dire che magari il fatto che sia arrivato all'ultimo momento non sia stato fatto apposta proprio per farti sbrigare quelli della redazione. Ma quello non lo sappiamo. Comunque, vabbè, non mi hai risposto su sta cosa, Marco, prima di andare avanti col tema, perché cioè, secondo te, la domanda, secondo te vale più il fatto che se ne parli a prescindere, o vale più il voto della... Che praticamente già comunque vale più la, comunque il movimento, la cassa di risonanza è importante, perché comunque bene o male l'importante è che se ne parli. Questa è proprio la, io penso su questa cosa abbiamo, siamo tutti cioè, d'accordo, ma è proprio una linea comune che abbiamo. È ovvio che più c'è rumore, più c'è interesse, più magari la gente comincia a pensare, ma vediamo un po' perché parlano male, ma vediamo un po', ma è veramente brutto questo gioco. E quindi poi alla fine qualche acquisto più potrebbe anche, sì, anche perché secondo me c'è pure un meccanismo quasi psicologico, no? Psicologia, psicologia inversa, tutti che dicono che è una merda quasi quasi lo compro, insomma. Sentiamo cosa, a proposito di rumore, cosa ne pensa anche Roberto, che sta vivendo l'alluvione del secolo. Stiamo per aprire ovviamente anche qui un'iniziativa umanitaria, perché presto sarà senza il tetto. Sì, diciamo che mi rilascio un po' al discorso, appunto, è importante che se ne parli. Per ricordare velocemente due casi di giochi pessimi, uno è Rule of Rose, che in Italia abbia una certa risonanza e vendette in maniera particolare, pur essendo sostanzialmente una grande ciofeca. No, era una grande ciofeca, no, sostanzialmente lo era. Ecco, però vendette molto grazie a una polemica fatta da, fra l'altro, una rivista non specializzata all'epoca, che era Panorama. Sì, ma anche in televisione, cioè sì, politici, è tutto, fra l'altro, era nato assurda, per, perché la rivista in questione, se non sbaglio, ho letto, sbagliando a capirne, una specie di recensione in rete, quindi volete capire la qualità dell'informazione che era stata data. Vabbè, in generale in Italia è da punto traviando vista, assolutamente poi la realtà, cioè proprio aveva completamente, okay, travisato la realtà. Quindi giusto per dire che non sempre il giudizio possa influenzare in maniera così importante le vendite. Ritengo, okay, che il giudizio sia importante su un altro livello, che era quello che, di cui facevo la promessa all'inizio del podcast, ovvero nel momento in cui io sono una persona che lavora nel marketing e devo in qualche modo essere valutato sul mio lavoro, devo essere valutato su qualcosa di oggettivo. In questo caso, legandoci a quello che erano altre le riviste, al numero di copertine che ho ricevuto. Per quanto riguarda i siti internet è meno facile dare, appunto, risalto, però può essere il pezzo che è rimasto in prima pagina per più tempo, una cosa del genere, ok? Quindi, partendo da questo presupposto, potete immaginare che appunto ci sia una stretta correlazione. Quindi in qualche modo se ho un sito che, cioè, io sto lavoro per ipotesi in questo momento da utente, perché purtroppo non sono un caporedattore, non ho la, diciamo, un rapporto diretto con chi effettivamente fa pubblicità, quindi non posso darvi in questo caso la mia esperienza diretta. Però immagino che se un sito che mi promette la copertina, magari cerco di favorirlo, questo sicuramente. Anche se... Quindi anche secondo te un publisher può revocare alcuni privilegi a seconda delle determinate situazioni, tipo ecco, magari l'esclusiva temporale? Allora, più che revocare, se no può premiare, cioè, nel senso, la logica che vedo io è più proattiva che passiva, nel senso... ma se te premia una volta, di conseguenza te penalizza la volta successiva, perché... Beh, Roberto, non so se ti ricordi il caso di Kane Lynch. Sì, chiaro, quello che... ecco, poi sì, l'avevamo accennato proprio... all'inizio, tu Roberto, parliamone di questa cosa, perché... Lì non ci fu premio, ci fu proprio un licenziamento in tronco. Proprio. Sì, nonostante poi, mi ricordo che ai tempi venne smentita la cosa, nel senso che velocemente, sotto l'accensione del gioco non positiva... Contestualmente, se non ricordo male, c'era la pubblicità di questo. Giustamente, anche sì, voi. Contestualmente c'era la pubblicità di quel gioco sul sito, e in qualche modo si dicono che il publisher sia riuscito a tenere la testa di questi redattori. Ora, non so se effettivamente sia andata così la questione, dico la verità, nel senso che purtroppo non ha elementi. Ma lui mi sembra che, oppure qualche link da qualche parte, lui confermi la cosa e definire la cosa più ridicola che gli sia capitata in vita sua, una cosa del genere. Quindi. Comunque l'ha confermata questa cosa, se non sbaglio. Poi adesso forse ripesco il link da qualche parte lo vedo. Ok, quindi sì, in questo caso può sembrare che sia una logica che non vada a premiare. Però ripeto, non è un. Cioè, il discorso è che il voto non è importante in sé per quanto riguarda le vendite, ma è più importante per avere un ritorno sul proprio lavoro. Io lo vedo più così, in quest'ottica, personalmente. perché come dice anche giustamente Luigi, vedo difficile che un ignoto su Mafia 2 possa in qualche modo aver spostato le vendite di questo titolo, anche e soprattutto perché in Italia manca una cultura della firma che in qualche modo possa essere seguita e poi determinare o meno le vendite. Magari faccio fatica, adesso faccio una piccola battuta, però magari anche non molto una battuta. Nessun publisher, nessun distributore ha chiesto che un gioco venisse espressamente recensito da me, nonostante io sia uno scrittore eccezionale. Quindi è modesto, siamo a conclusione, soprattutto modesto. Siamo a conclusione, siamo a conclusione della puntata. Possiamo chiuderla. No, ragazzi, sapete che stavo pensando? Quando uscì Call of Duty Modern Warfare 2, che quindi immaginate la risonanza che doveva avere Modern Warfare 2, stavano aspettando tutti quanti, era un caso emblematico, lo acquistai anch'io tra l'altro, io che non amo particolarmente la serie. Dietro, su retrocopertina, c'era una frase sul videogioco, praticamente. Mi ricordo che c'era videogame.it addirittura, se non sbaglio, sulla recensione, e dietro c'era una firma italiana che diceva uno dei migliori first person shooter eccetera, prende posto insomma una frase di encomio per il gioco. Indovinate la firma di chi era? Luigi Marrone. No. Roberto Bertoni. No, neanche. No, è un po' vario, ma è italiana nell'ambito videoludico. Italiana. Un redattore o un personaggio? Io dei videogame.it non conosco proprio nessuno, quindi. Di un redattore di videogame.it o in generale? No, scusa, mi sa che non c'era Morgan. Scusate, videogame.it mi sono sbagliato. Videogame.it stava su Alan Wake, perdonatemi, che però era a firma videogame.it, cioè quindi era come una come posso dire, una sorta di, non so se era videogame.it o nextgame.it, comunque era comunque il sito. Invece qua sto parlando proprio di una firma su Modern Warfare 2 che insomma ne ha vendute diverse copie anche in Italia, quindi la firma era di Matteo Bittanti. Ci ho pensato, ma ho detto Matteo Bittanti e sì. Modern Warfare 2, insomma. Cioè, era una cosa assurda, però se ci pensate, quanto manca quindi il riconoscimento istituzionale di una firma, quindi anche di una critica videoludica, tanto da dover chiamare qualcuno che non sta in Italia, ma è uno studioso, un ricercatore italiano che sta a San Francisco. Cioè, per dire, questo che vuol dire? Vuol dire praticamente che non abbiamo una critica specializzata riguardo recensioni, ma abbiamo praticamente dei ricercatori specializzati in quanto a videogiochi che vanno a mettere la firma sui videogiochi, quindi quasi qualcosa di accademico, se vogliamo, hanno ricercato, non una risonanza videoludica in sé. Sì, anche se però per io rilanciarmi quello che dice Roberto. No, dicevo, sì, anche se però io purtroppo, ma questo nei videogiochi così come anche nel cinema o in altre situazioni, sono sempre molto profondamente perplesso quando vedo delle note di commento, ovviamente, che ne so, il Times, Repubblica o via dicendo, sulle copertine o sui trailers, perché comunque spesso e volentieri questi prodotti, anche il packaging e tutto quanto, viene preparato contestualmente alla finalizzazione di un prodotto, e mi domando sempre: quando hanno avuto il tempo di prendere o di vedere o addirittura di scrivere la recensione dalla quale è stata tratta quella frase? Quello forse è l'unica cosa che mi ha sempre destato un po' più di sospetto rispetto a tutto il resto dell'impianto di questa puntata, che poi ovviamente, come abbiamo detto, in realtà era pretestuosa, ma pretestuosa anche a fin di bene, perché poi comunque ne siamo usciti con la convinzione del fatto che comunque i portali e le riviste fanno veramente ancora in Italia il loro mestiere in maniera abbastanza pulita. Ma guarda, Simone, secondo me questo più che altro magari le frasi che si possono trovare dietro i libri, DVD, videogiochi, tendono ad essere un po' decontestualizzate, esatto, da quella che magari poteva essere, faccio esempio, un articolo di giornale dove si parla di tale videogioco, per dire. Magari loro prendono una frase molto positiva e la riportano così com'è, senza metterci tutto il resto. Magari il resto non era così positivo, non dico negativo, ma magari non. Magari nella frase hanno scritto estremamente bello da giocare assolutamente, poi la frase dopo era però dovete stare attenti se sei cieco. Esatto, quindi magari il rischio è un po' quello, più il fatto che non sia reale o che sia un po' fallace, ma quello, se uno è una persona un po' intelligente, più o meno lo sa. Facevo facevo un discorso sui tempi di realizzazione della grafica, del packaging di un prodotto, così no, come loro... del trailer, che non ti crede che spesso e volentieri tanti di questi materiali vengono pre-preparati in determinati contesti. No, ma giustamente contesti, le cose vengono date in anteprima a certe, a certe persone. Non veramente esista quell'articolo, capito? Quello che voglio dire, ma dico, cioè, nel senso che tanto... cioè, chiaramente anche nei, nei videogiochi come nel cinema vengono date delle anteprima per i delle anteprime per i giornalisti, in modo che prima che esca il gioco vengano fatte le recensioni e aumenti l'hype. Quindi probabilmente è tutto lì la cosa, cioè il tempo probabilmente per farlo ce l'avevano, perché gli è arrivato prima rispetto all'utenza, come succede abitualmente per le anteprime, per le esclusive, ecco, di certi siti, di certe riviste, più che di altre. Quindi secondo me, cioè, il tempo effettivamente c'è. Poi nel sul fatto che magari non siano esageratamente reali o troppo corrette o troppo decontestualizzate, sì, giusto. Sì, vabbè, quello questo, sicuramente. Questo posso dirvi la mia esperienza, nel senso che due spunti. La prima, che sempre più spesso mi capita di andare incontro a embarghi, quindi vuol dire semplicemente che una recensione non può essere pubblicata fino a tale data, e la data che viene fissata è quella dell'uscita. Quindi questo cosa comporta? Che probabilmente chi sviluppa lo gioco non vuole che venga dato un giudizio prima che questo sia sul mercato. Le motivazioni lasciamo immaginare. Personalmente non ho una risposta certa sul perché di questa cosa. Da una parte dico perché ho paura che il mio gioco faccia schifo e non voglio che tu mi rovini l'uscita. Dall'altro posso pensare invece che voglio creare un hype, un desiderio per questo gioco, che non voglio che escano fuori notizie prima che questo sia effettivamente sul mercato, in modo tale che poi uno, preso dalla citazione del gioco e quant'altro, posso effettivamente comprare il gioco. O terza alternativa, voglio che tu recensisca un gioco che sia il più possibile uguale a quella che sia la versione che poi arriverà sul mercato, e quindi non ti do il gioco 6 mesi prima che magari è bacato e tutto, perché voglio darti la possibilità di recensire il gioco effettivamente per quello che è, quindi con i bug che ci saranno al momento dell'uscita. Esatto. È chiaro, beh, quello è il minimo, insomma. Va bene, io a questo punto vi farei un'ultima domanda. In realtà sarebbero due le domande, però una un po' l'abbiamo detta anche prima e non mi sembra inutile, insomma, ritornarci e soprattutto riapprofondire, visto e considerato che stiamo insomma oramai alla conclusione del nostro episodio, perché abbiamo già espresso il fatto che tutti più o meno gradiremmo nelle recensioni magari una valutazione piuttosto che un voto strettamente numerico basato magari su uno schema di valutazione predefinito dalla rivista o dal portale. Però ecco, una cosa che abbiamo accennato prima e che è poi fondamentalmente la domanda finale è che in realtà secondo voi anche se chi fa recensioni come, che ne so, veramente un portale di primo livello su un gioco che comunque sta per uscire e magari hai giocato il codice prova da 2 giorni, 3 giorni, ovviamente scrivi la recensione sulla base della necessità di dover far uscire quella recensione entro una specifica data, entro uno specifico momento, che non è soltanto quello dello sblocco dell'embargo, ma è anche quello dello sblocco dell'embargo più anticipare ovviamente il sito concorrente, perché chiaramente poi questo è un gioco che ci sta e fa anche parte sanamente, fa parte insomma del gioco, perché fa contatti editoriale. Perché i contatti fanno pubblicità. Esatto. Quindi dico, ma secondo voi veramente c'è la capacità anche in buona fede del professionista che in quel momento sta facendo una valutazione di poter fare veramente una valutazione così ampia e così completa rispetto al prodotto che sta giocando, e perché se no, ovviamente, cioè nel senso, cosa che anche per me è impossibile, che comunque quel gioco sia veramente valutato nell'insieme, nella sua totalità, perché come ho detto tante volte i problemi, i bug o cazzi e mazzi escono di solito sempre dopo, se no perché le riviste non fanno una sorta di ritorno, cioè nel senso, ok, a un mese di distanza rifacciamo un ulteriore articolo di approfondimento su quel gioco, pregi e difetti che abbiamo trovato e che magari non abbiamo ascoltato prima. Luigi. Dunque, io penso questo, che come ho visto lavorare alcuni recensori, essendo insomma dei professionisti del settore, non provavano tutto il gioco fino alla fine, ne provavano una parte e si facevano un'idea fondamentalmente di quello che era l'aspetto fondamentale del gioco stesso. Poi andavano a spulciare, ho visto spulciare ovviamente altri recensori, altre recensioni, facevano un'idea ancora più generale e poi tracciavano comunque il loro giudizio, che era sempre comunque abbastanza oggettivo. Quindi da questo punto di vista ti posso dire che tutti i recensori, non penso, terminano i giochi fino alla fine e quindi sanno di tutti i bug o di tutte le gli anfratti che il gioco può nascondere, che aspettano soltanto di essere rivelati. Quello che dici tu sul fatto della reprise mi sembra interessante, cioè nel senso che una sorta di retrospettiva per alcuni videogiochi. Però ti dico, hai parlato di riviste, la rivista si basa su 3 tipi di contenuti, 3 tipi di spazi, sia online ovviamente che quella cartacea. Le retrospettive la fa la comunità, secondo me, i forum di discussione e chi alimenta la presenza sul sito come iscritto, come utente. Perciò, per rilacciarmi al discorso di prima, è controproducente se un determinato tipo di sito, per accaparrarsi delle esclusive da parte del publisher, va a mettere dei voti gonfiati oppure è troppo compiacente nei confronti del prodotto stesso e del publisher. Perché? Perché non dobbiamo sottovalutare il valore che hanno oggi gli utenti, le comunità che si creano online. Siamo fondamentalmente dei lettori avidi che vanno a fare confronti fra più portali, e questo cosa crea? Crea che nell'eventualità in cui uno di questi si dimostrasse troppo compiacente, quindi troppo sbilanciato rispetto allo stesso prodotto, ce ne accorgeremo subito e andremo subito a dare un'accezione negativa a quel tipo di portale. Questo è quello che proprio non vuole il service editoriale stesso che lavora per quel tipo di portale, che è quel nome. Ecco perché quindi c'è una sorta di democrazia, secondo me, della rete, che si crea autonomamente quando andiamo a parlare di recensioni, di compiacenza, di voti o di altro. Cosa succede? Succede che poi quando succede il linguacchio, dove uno viene licenziato in America perché ha dato un voto, così si va a creare il caso editoriale, per cui poi ne parliamo sempre e si fa riferimento sempre a quella cosa lì, come si fa riferimento a Rule of Rose e ai titoli che hanno venduto molto perché sono stati bistrattati o parlati in maniera negativa da tutte le parti. Ma sono casi davvero singoli che non possono andare a toccare quanto è forte adesso la rete, quanto ha voce adesso collettiva la rete stessa. Non so se ho risposto alla tua domanda, Simone, sì, in qualche modo. Però insomma, cioè, penso proprio in maniera un po' piuttosto allargata di insomma, quello che ho espresso mi sembra abbastanza chiaro. Ma soprattutto è quello che pensi, quindi. Sì, non saprei cos'altro aggiungere, cioè non sottovalutiamo la professionalità di chi scrive, anche se non termina tutto per i videogiochi fino alla fine, la possibilità di reperire informazioni a destra e a manca e l'importanza adesso di essere abbastanza obiettivi e quindi in qualche modo di essere omogenei per quanto riguarda il voto dato a un determinato tipo di prodotto. Perché abbiamo possibilità di fare confronti. Prima magari con le riviste, facciamo un po' il passo indietro, non tutte le persone creavano si creavano dei fanboismi, prima ovviamente molto marcati per quanto riguarda le riviste. Perché? Perché uno comprava una rivista, cacciava dei soldi e quei soldi fondamentalmente erano per lui il miglior investimento possibile, quindi nemmeno si andavano a informare su ciò che veniva detto su quello stesso prodotto, stesso gioco, da un'altra rivista. Adesso invece è diverso, perché la gratuità che c'è nell'online, a parte il pagamento della connessione web, cosa succede? Succede che io posso andarmi a informare e quindi farmi una idea più permeata nel giudizio, più livellata nel giudizio, volevo dire, e questo fa la differenza. Quindi i fanboismi di sorta sono molti, molto meno marcati. Uno guarda davvero se vuole, diciamo, essere interessato, che è rimasto più sui videogiochi che sulle testate. Sì, sì, assolutamente sì. Cioè, il videogioco può creare questo, il fenomeno del fanboismo, eccetera, quell'altro, ma il voto poi esula da questo aspetto qui. E quindi niente, occhio quindi quando si a sottovalutare la potenza del web, della voce collettiva della rete, perché è importantissima, è fondamentale. È il vero giudice, secondo me, anche poi anche delle retrospettive. Se vuoi leggere delle bellissime retrospettive su un videogioco, non te la darà mai un approfondimento, per quanto specializzato, di una rivista. Te la darà invece l'appassionato che si mette lì e fa una ricognizione a partire dall'inizio di una saga, faccio un esempio, e va a fare veramente dei approfondimenti trasversali, le tesi di laurea che fanno molti ragazzi che si vanno a laureare sui Game Studies. Allora trovi davvero delle retrospettive, dei giudizi critici approfonditi e analitici. Mai, difficilmente lo troverai su una rivista specializzata online, tutto qua. Sì, però è un peccato, no? Perché poi magari il vedere l'autore di una recensione che magari ci ritorna, no? Ammettendo magari anche di aver approfondito determinate cose e quindi aver trovato magari elementi o difetti che magari ovviamente prima non avrebbe potuto. Va bene, sì. Stefano. Allora, io volevo collegarmi velocemente a Luigi. Potete trovare delle interessanti retrospettive, però fatte da GameTrailers.com. Adesso, proprio per non parlare sempre di siti italiani, eccetera, eccetera, questi sono gli americani. Se andate su GameTrailers.com, sulla sinistra trovate le retrospettive su vari videogiochi, da Metal Gear Solid, da Star Wars e così via. Sono molto ben fatte, secondo me. Sono molto, insomma, seguono molto, molto bella quella su Castlevania, parte dal primo sino ad arrivare a praticamente all'ultimo, come si chiamava l'ultimo, perdonatemi, non mi viene in mente, l'ho anche giocato quest'anno, Lord of Shadow, ecco, ma anche Lord of Shadow me lo sono ricordato da solo, Lord of Modern, esatto. Quindi qui potete trovare delle cose interessanti, appunto non hanno forse c'è della passione in mezzo, ma non è proprio quello che intende Luigi. Qui, se volete una cosa più simile a una compulsione, no, più a una recensione che sia di tipo retrospettivo, ecco, quindi fatta da recensori della stampa specializzata, sempre con virgolette, eccetera, eccetera, e esclusivamente per le serie, tra l'altro, non sono giochi singoli. Cioè, per dire, non è retrospettiva su Heavy Rain, esatto, è proprio solo saghe, serie, praticamente, ovviamente. Quindi appunto, sì. Come può essere, quindi si fanno le saghe, le belle saghe, a tutti piace farsi le saghe, dopo tutto, quindi. Le saghe, cioè, chi non si è mai fatto, esatto, una saga? Quindi poi, per tornare invece alla domanda, secondo me appunto il giudizio è sempre difficile, anche perché non è possibile sempre ritornare, cioè io immagino anche il casino che sarebbe, pensando idealmente al fatto che un redattore ogni tot ritorna sulla sua, tra l'altro l'ho detto con 5T, ritorna praticamente, esatto, sappiamo che hai problemi con le doppie, per cui tranquillo, anche se stai migliorando, va bene, grazie. Immaginate la recensione di, faccio, Max Payne 3, tra 2 anni hanno corretto tot bug, allora uno deve tornare a leggersi, aspetta, vediamo cosa hanno corretto, cioè, ma no, fra 2 anni, no, per dire, ma no, ma ragazzi, qui in virtù del fatto che ci sono che ne so, shop tipo Steam, uh-huh, c'è tantissimi giochi, tantissimi, anche tantissimi nostri ascoltatori, anche ascoltatori tuoi, magari, che è capitato qualche volta di avere modo di interagire. Comunque dicono: io non compro il gioco al day one, sì, io aspetto che su Steam me lo vendono a 6 euro. Sì, sì. Perché è capitato, fanno le offerte, ma Mass Effect 2, per esempio, c'è stato un periodo in cui lo vendevano a 4 euro e qua è 90, uh-huh, una cosa del genere. E allora, chiaramente, siccome queste sono offerte che capitano temporalmente e dopo un tot di tempo, in virtù del fatto che prima o poi ci saranno cose del genere, quindi stiamo parlando di un mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, uno può ritornare, no, su quel tipo di discorso, ma può anche non farlo, non è che io sto dicendo, però ho detto sarebbe carino, però comunque la domanda è più sul fatto della recensione del primo acchitto, secondo me è problematica, esatto, ma è collegato a questo, cioè nel senso, uno può solo fare quel tipo di sguardo, che ovviamente in un mondo che lentamente sta diventando sempre più fluido, quindi con cose create dopo, sarà volente o nolente parziale, ma uno ne è consapevole, cioè ormai più o meno uno lo sa che il gioco esce e avrà delle patch in seguito. Non siamo più nel 92 dove col 56k, col 56k, col 14.4 non c'era neanche concetto di patch praticamente per il gioco. Cioè, se il gioco aveva dei problemi, più o meno te li tenevi. Cioè, c'è da dire anche quello. Io non me la sento di giustificare poi gli sviluppatori che magari ti fanno uscire un gioco più bugato del previsto, però sento di giustificare i redattori che si trovano quel gioco da recensire. Quindi o lo fai subito oppure perdi il treno, diciamo. Cioè, non si può aspettare troppo. E anche tornare sull'argomento non è conveniente. Non è conveniente. Infatti è quello. Cioè, quello. La necessità del tempismo è quello. Ma quello è colpa è colpa degli sviluppatori, non dei redattori, diciamo, tra virgolette, ecco, cioè colpa, ovviamente tra virgolette. E il punto è che non è conveniente ritornare su un gioco di cui si è parlato magari qualche mese prima. È proprio troppo. E sarebbe davvero forse uno sforzo extra, perché quel gioco lì sarebbe già considerato vecchio da un certo punto di vista. Cioè, tu vuoi mettere il tuo sforzo su Skyrim per parlarne adesso, dove la maggior parte dei bug sono stati corretti, oppure vuoi mettere tutti i tuoi sforzi su Assassin's Creed 3 che sta per uscire? È ovvio che è più interessante, anche per me lettore, per dire, sapere di Assassin's Creed 3. Perché io magari Skyrim me lo sono già sciroppato per i fatti miei, mi sono già informato e così via. Quindi io capisco che non sia possibile. Cioè, è un po' un compromesso forse che c'è tra lettori e redattori, ecco. Cioè, tu lo sai, loro ti fanno la recensione di quel gioco in quel momento, poi sta a te decidere se prendertelo rischiando di trovarti i bug oppure prenderlo dopo con tutti i bug corretti. Poi sul fatto che questo non sia corretto, cioè sul fatto che non sia corretto rilasciare un gioco che non funziona letteralmente, questo è un altro discorso ancora. Però per quanto riguarda la stampa, secondo me si arriva giustamente a un compromesso e condivido in pieno il fatto che ci sia una necessità di fare così, ecco. Purtroppo è così, ma questo mio parere, non lo so. Adesso allora mi ricollego. No, vabbè. Mi ricollego allora a Roberto, visto che lui invece fa parte della stampa. Cioè, tu come ti poni con queste questioni? Quindi appunto. Lui lo deve scrivere subito l'articolo, sennò io esatto, mi amo, cioè, chiaro, dico, non ti, almeno io mi sono messo mi metto nei tuoi panni, roba, ci sei? O non lo pagano, ancora esatto. Meglio. Roberto, ci sei, tra l'altro? Sì, no, ok. Stavi. Premesso che mi pagano fortunatamente, se no non lo farei. No, non ti pagano se lo fai uscire tre mesi dopo aspettando che abbiano corretto i bug, dico. Lo devi fare subito, cioè. Diverso. Allora, diciamo che personalmente la mia esperienza è che arriva un gioco, lo gioco e lo valuto, bug compresi. Quindi non è che dico questo bug c'è, ma faccio finta di niente. Fortunatamente su questo punto di vista ho carta bianca. Sì, come no, dicevo anche un poco fa, ormai oltre un'ora fa, sono il primo a non digerire per niente il fatto ci sia un numero di bug oltre misura, nel senso che è una cosa che non tollero, soprattutto per chi acquista. Faccio una valutazione un po' più complessiva e un po' più all'ampio spettro. Discorso retrospettive è bellissimo, però non redditizie dal punto di vista pubblicitario. Esatto, è una cosa che non condivido pienamente, appunto il discorso dei bug. Quindi uno sviluppatore portare un prodotto, non dico perfetto, che assolutamente vi sei dimensioni di alcuni titoli attuali, è impossibile, però che sia giocabile senza problemi da inizio alla fine. Questo comporta anche, nel momento in cui recensisco, cerco di arrivare al termine del gioco, non sempre mi è possibile, ma dipende dalla tipologia di gioco chiaramente. Un'avventura grafica si arriva alla fine, un FPS si arriva alla fine, uno strategico magari non si provano tutte le campagne con tutti i personaggi, con tutti i vari bilanciamenti possibili e immaginabili. Questo chiaramente è una cosa impensabile. Per arrivare poi più focalizzati sul discorso del voto, allora, questo è un parametro necessario, purtroppo, visto che molto spesso l'utente medio non va a leggere con dovuta accuratezza quella che è la recensione, ma arriva al voto finale, punto. Quindi anche una retrospettiva che non propone un voto ha una valenza poco utile. E là, velocemente, facendo un esempio di un altro sito che gestisco, Call Games Italia, dove per diversi anni io per primo abbiamo provato a proporre recensioni che non proponessero come parametro di giudizio un voto, ma che andassero a valutare altre cose, quindi l'importanza storica, il grado di evoluzione del videogioco nel genere, eccetera eccetera eccetera. Ci siamo accorti che se da una parte non avevamo un riscontro positivo dal punto di vista delle letture, dall'altra era il recensore stesso che spesso si trovava naturalmente portato a dare un voto. Questo perché alla fine si ritiene che una recensione deve per forza contenere un valore oggettivo che possa essere paragonabile. Questo fino a che non sono arrivate le recensioni mie e De Marco sul Games Italia, che chiaramente tutto è cambiato, no? C'è stata una trasformazione della qualità del pubblico, certo, trasformazioni anche del pubblico stesso, anche perché il sito stesso si è trasformato. Tra parentesi, concludi, prego, perdonami. No, vai, tanto sono scazzate quelle che dico. No, sto pensando che anche io effettivamente quando mi capita di scrivere poche recensioni non metto voti. Cioè, mi è venuto in mente adesso effettivamente che non metto voti, nonostante sia, come dire, un metro di paragone molto, molto utile per chi sta scrivendo, per far capire quello che uno intende comunicare con un numero, in fretta quindi. Cioè, ovviamente 10 sarà migliore di 4, quindi non ci metti tanto, anche senza leggere la recensione ti renderei conto che se gli ha messo 10 lo giudica un buon gioco. Quindi in effetti può essere, capisco la necessità, ecco. Tutto questo. Sì, e giusto per chiudere il cerchio, la retrospettiva di cui parlavamo ha poca importanza dal punto di vista commerciale, quindi è difficile trovare sui siti specializzati, anche se mi capita di vederne, perché non contiene questo parametro che è il voto, e quindi non essendo di utilità nel momento migliore di accesso, ovvero day one o vicinanze, non ha così importanza, tanto è vero che, come giustamente dice anche Luigi, è più facile trovarla in siti di appassionati, che loro sì vanno magari a spulciare più il gioco a 360 gradi di chi invece deve fornire una guida d'acquisto fondamentalmente. Marco? Ok, allora no, non abbiamo sentito un aspetta, po' Marco, infatti. Sentiamo l'ultima opinione, che è quella di Marco, poi andiamo a rotazione, facciamo ovviamente sempre Luigi, Stefano, Roberto, no, sentiamo Marco, l'ultima ruota del carro, scusa. Marco è sempre l'ultima ruota del carro. Facciamo successivamente all'opinione di Marco una valutazione proprio finale, ma molto sintetica, ragazzi, perché stiamo andando veramente in là coi tempi, perché poi abbiamo la parte finale dove ovviamente diamo un po' di spazio anche ai feedback che abbiamo ricevuto. Tiriamo bestemmie. No, diciamo che per quanto riguarda me, anche il fatto dei voli, come ho detto prima, sono secondo me superabili con altri sistemi di valutazione, che può essere semplicemente un gioco da provare o un gioco da non provare, che, per dire, comunque una valutazione che non sia nei portali di cinema, cioè da vedere, ni da vedere, so da vedere, boh. Sì, da vedere, boh, che comunque alla fine il voto 7, 8, 9 è soggettivo, e poi lascia anche il tempo che trova, è anche adito a sospetti vari, ma diciamo, dare comunque un consiglio, cioè un gioco che vale la pena, non un gioco che non è perfetto ma è perfettibile, cioè che si può comunque in futuro con un nuovo patch rendere diciamo giocabile, quindi dare dei consigli di questo tipo, secondo me è meglio che dare una valutazione. Un Mass Effect che non faceva importare le facce, che c'aveva problemi di frame rate con la PS3, forse c'è ancora, non lo so, mi sono perso. Uno Skyrim con i draghi che si incastonavano dentro le montagne e giravano al contrario o si perdevano i personaggi, insomma non puoi dare un voto che è vicino alla perfezione. Ma secondo me non è manco quello il problema, perché io ho letto una recensione che dice: negli ultimi due giorni da quando è arrivato il codice abbiamo giocato per 30 ore a Skyrim molto approfonditamente. Non puoi giocare 30 ore approfonditamente, sei giocato in due giorni tra l'altro, anche perché al di là dei bug poi ci sono tutta una serie di meccanismi, le pozioni, molti bug, il commercio, te ne rendi conto in 30 ore del gioco, perché te ne rendi conto dopo diverse ore che il bug l'hai incontrato, non ci hai avuto a che fare, quando vai ad affrontare la X missione, ti rendi conto, cazzo, 15 ore fa ho incontrato il bug e adesso mi si è sputtanata la partita. E tra l'altro, infatti, quindi, anche perché molto spesso e volentieri quando si tratta di giochi così grandi, secondo me, cioè se va sulla main quest e la porti fino alla fine e poi dici ho finito il gioco e vabbè, ok, però poi chiaramente ribadisco, secondo me parecchie delle cose escono fuori alla lunga. Comunque vabbè, Dai, io penso insomma che in linea massima è tutto abbastanza lineare. La cosa impressionante è che forse rispetto alla prima puntata ci siamo trovati, c'è cioè una percentuale di concordezza diciamo che è un po' più alta rispetto a me. Questa è stata abbastanza interessante come episodio. Ovviamente lo sapevamo anche che era un episodio più cattivo. Sì, esatto. C'è stata un po' di democrazia cristiana dentro di noi che ci ha accompagnato. È colpa di Roberto che secondo me ha trasformato lo spirito di questa trasmissione, quindi lo cacceremo dalla prossima volta in poi. Da Luigi a Stefano a ovviamente Roberto e poi Marco, un piccolo giudizio finale, poi andiamo ovviamente ai saluti finali. Eccomi. Giudizio finale su cosa, scusa? Su questo episodio, su quello che abbiamo detto. Ok, grazie. La discussione era un po' giudizio finale. Bravi, io vorrei solo dire bravi. A chi? Boh, così, bravo. No, vabbè, è stato interessante, Luigi, che forse. Non è facile, dico, non è facile addentrarsi in tutto il in tutto questo che è stato sollevato con tutti questi argomenti e la profondità, cioè sarebbe veramente da farci un secondo me una sorta di meeting o incontro in una università o se vogliamo in una redazione in cui si fa giornalismo e niente, quindi traccio le linee, diciamo le direttive riassuntive di tutto quanto e dico semplicemente, quindi la visibilità oggi, viviamo in una società in cui la visibilità conta ancora, pare che debba contare ancora tanto, per cui molto si basa sulla visibilità e su quello che sta sullo schermo, che molte volte è sulla dei contenuti, qui invece dovremmo porre più l'attenzione. Questo porta sicuramente ad un abbassamento del livello della personalità di quello che andiamo a molte volte, di come ci viene presentato anche quello che, di cui andiamo poi a godere, ed è un peccato che non sia riconosciuto praticamente, quindi un giornalismo videoludico che abbia una firma che sappia fare la differenza e che tenda fondamentalmente poi a, uso un termine forte, a discriminare chi vale davvero dal punto di vista culturale dell'informazione e chi invece potrebbe essere tranquillamente lasciato a casa o quantomeno non paragonato tutti quanti nella stessa barca allo stesso livello. Quindi semplicemente questo, io voglio ancora e spero ancora che un giorno ci sarà una rivista, un giornalismo videoludico che sia anche di stampo, se vogliamo, accademico, più istituzionalizzato, per cui un nome vale ancora quanto valga come una firma di un critico d'arte, di quelli che si fanno pagare o comunque hanno quella voce in capitolo, e che non venga poi ovviamente strumentalizzato per dei fini che sono puramente commerciali. Questa è la mia utopia. Tutto qua. Oppure un sito come Dietrologia Videoludica, che potrebbe diventare il sito dietrologico di approfondimento senza fretta, cioè nel senso che i membri che comunque fanno parte di questo team si prendano il tempo di tanto in tanto per andare a controapprofondire quello che è già stato magari approfondito, perché poi in realtà quello che manca, al di là dei siti degli appassionati dove ci sono i forum, dove ci sono le discussioni, robe del genere, veramente mancano spesso e volentieri dei testi di cultura del videogioco nel senso più generale, no? E questo insomma a me farebbe piacere il fatto che, certo, che comunque ci fosse l'opportunità che da un podcast per esempio come questo possa nascere poi alla fine veramente un sito di riflessioni che prescinde dai videogiochi, dalla fretta di fare uscire un voto o dallo sbrigarsi di parlare del pezzo caldo. Spero insomma che magari, ecco, visto che Stefano per esempio nelle ultime settimane insomma un po' ci ha messo mano, allora io sprono anche Marco, anche Luigi quando avrà modo, anche Roberto, so che Roberto con tutti i siti che c'ha insomma sarà un po' difficile, però no, sono d'accordo con te Simone, quello che hai appena detto e perfettamente d'accordo, sì. Esatto. No, diciamo che tracciando un po' anche io un attimo un veloce quadro del tutto, direi che come tutte le cose non è così facile distinguere il nero dal bianco, nel senso dare giudizi dove si dicono no, i giornali sono comprati, no, non sono comprati, eccetera eccetera, non è così facile, perché appunto è un problema molto complesso che ha molte sfaccettature, come abbiamo potuto vedere in questa puntata. Sicuramente meriterebbe un approfondimento, e sicuramente è difficile diciamo estrapolare i vari legami in un mercato così complesso in quello videoludico attuale. Manca sicuramente una cultura, nel senso che quello che vedo io è più, purtroppo, per fortuna, o quello che il mercato richiede, una guida all'acquisto più che l'analisi del videogioco, tutto quello che questa cosa può comportare. E l'unico passo avanti si potrebbe fare appunto costruire una critica un po' più corposa, o che possa andare anche al di là di quello che è la semplice valutazione per comportamenti standard, questo sì. Ma manca sia una cultura della firma, come ho detto più volte, sia una cultura della qualità, in cui io senza nessun problema mi metto dentro tranquillamente. Bene. Cioè tu sei la qualità. No, nel senso che anch'io spesso scrivo pezzi con un'ottica più orientata a quello che può essere l'acquisto, pur cercando di rendere il più completo possibile il tutto. Ma se una persona va su un certo sito per avere, sapere fondamentalmente su un gioco le comparlo o meno, spesso gli dare quel tipo di informazione. Sì, è vero, però questo è un discorso che però possiamo fare in generale, ragazzi, perché cioè nel senso, una volta essere giornalisti significava aver studiato, cioè nel senso, chi scriveva sapeva scrivere, no, non perché chi scrive oggi non sa scrivere o è una critica verso di te, ma in generale, cioè proprio in generale, in tutti gli ambiti la professionalità è cambiata, no? Il tipo di professionalità. Quindi quando parliamo di qualità bisogna sempre fare attenzione, insomma, anche a quello che diciamo, che intendiamo per qualità, insomma, perché un certo tipo di qualità probabilmente è proprio difficile che ci sia, perché molte persone che diventano giornalisti o comunque redattori videoludici, cioè vengono dal videogiocare e basta, cioè non è che vengono da una formazione, no? Quindi questo vale per tanti, credo, a parte Luigi, che chiaramente è un'entità che trascende qualsiasi. Quindi... Sì, però come abbiamo accennato prima, il problema di questa qualità è un problema fondamentale che è stato creato, è creato dal mercato, nel senso, nel momento in cui io sto in piena pubblicità do un servizio che mi corrispondente a questo, nel senso, se dovessero tutti i siti pagare persone a tempo pieno che studiano, fanno giornalisti e quant'altro, non avremmo siti, o probabilmente ne avremmo uno o due. Cioè, è un gatto che si morde la coda in questo momento, cioè la critica non è pagata, non rende in questo momento sicuramente, eppure è tanto divertente. Cioè nel senso, se mi pagassero a me per criticare, sai quanto è facile dire di aprire proprio, esatto, un sito, capito? Cioè, a me invidi, un bravo, sito, noi offriamo, bravo, un servizio, esatto, di critica a priori, cioè in generale critica, cioè, magari, esatto, noi non conosciamo neanche il prodotto, però noi lo critichiamo comunque. Ma anche persone, no, cioè, se il prodotto inteso come entità, non come cosa. Quindi okay, io, Stefano, io concludo, sarò breve e circo inciso, come mi dice sempre un mio amico, e io più o meno quello che dovevo dire l'ho detto, tutto sommato, poi quello da aggiungere sarebbe stato allora più lungo. Ciao, no, bravo. Io voglio sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori invece riguardo alla questione. Quindi rigiro la domanda, voi scriveteci scriveteci su Facebook, commentate. Twitter, eccetera, oppure posta elettronica di trilogia videoludica @gmail.com. Fate sapere voi cosa ne pensate della critica in quanto utenti, di tutto quello che abbiamo detto in generale, ma soprattutto, insomma, il nodo focale, quindi quello che riguarda la stampa specializzata, il rapporto con i publisher, eccetera. Quindi sono curioso di sapere cosa ne pensano tutti in generale. Quello di cui pensate voi quattro, lo so, non mi interessa, quindi non c'è problema. Quindi più o meno questo è quello che voglio dire in conclusione riguardo a questo. E Marco? Io invito la gente a scriverci, ovviamente anche per insultarci. Sempre, quello sempre. Poi invitiamo anche Morgan di nuovo a di nuovo a insultare Pizzi. Lo fa a priori. Morgan ce l'ha come Simone, io gli voglio comunque tanto bene. Però ama a me migliore adesso sono contento. No, ci passi anche tu tra poco, secondo me. Infatti, aspetta, dai, il tempo deve descalare, devi entrare nella testa prima. Ma no, io non voglio entrare, voglio che mi entri. E poi comunque diciamo che in ogni caso ha tutta la zozzeria. Benissimo, queste sono sempre le bellissime parole. Roberto, tu mi sa che devi dire qualche cosa forse. No, mi sa che hai detto. Sì. Basta, dai. Solo che l'abbiamo ignorato. Dai, chi se ne frega, dai. Oramai tanto c'è stato un momento in cui ho perso la connessione con voi, quindi non so chi ha parlato e chi ha detto cose intelligenti. Sicuramente sono cose intelligenti perché dette da voi. A questo punto andiamo alla parte finale della trasmissione, dove leggiamo rapidamente dove alcuni feedback. Dove cerchiamo di avere il vostro perdono. Stacco. Io ascolto Dietrologia Videoludica e ogni volta mi bagno. Non sto scherzando, mi bagno quando ascolto questa gente che capisce, che spiega, che mi mostra, che mi illustra cosa c'è dietro i videogiochi. Io non videogioco, ma vi ascolto. Ascolto Marrone. Ogni volta che sento Marrone parlare è come se Gesù Cristo venisse da me e mi dicesse: hai capito? E io: sì, cazzo se ho capito. Ogni volta che sento Simone parlare, Simone mi infonde un cielo azzurro privo di nuvole. Poi Marco, il distruggitore, lui lo chiamano il distruggitore ma in realtà lui crea. Io sono creta nelle sue mani. Dateci informazioni, dateci luce. Poi quell'altro, quello di, come si chiama, quello di Retrocast, quello sardo, non mi ricordo il nome, scusami, però no, dovrei dire delle cose carine anche su di te, anche perché io ascolto sempre il Retrocast, me lo sono ascoltato tutto, tutte le n.000 puntate che avete fatto, anche se sono lunghissime. Ascoltare voi quattro è come i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Io vi ascolto e il cielo si oscura, come se la luna passasse davanti al sole e tutto il mondo si avvolgesse nelle tenebre e io diventassi parte integrante di queste tenebre. È una sensazione bellissima. Ecco, me la sono fatta addosso. Già, vado a fare la cacca. Ciao. Allora, partiamo subito dal sito di Dietrologia Videoludica, che è zitto, buono, appena nato c'è subito il primo commento di Morgan. Chiaramente, non potete essere chiaramente. Voglio fare una parentesi velocissima, perché ascolta il Retrocast non sa chi è Morgan. Noi l'abbiamo nominato con lo pseudonimo di Elsabor del Geco, che io leggo sempre Elsabor del Greco per motivi a me sconosciuti, quindi okay. È sempre a sta persona. Ah, lui è? Sì, Morgan si presenta con svariati nickname, allora ho capito. Perché è un essere multiforma. Ovviamente Morgan commenta anche su Archeologia Videoludica, ce l'ha particolarmente... con me, prima ce l'aveva con Peppe. massacrato Peppe, adesso ce l'ha con me perché dice che sono tracotante, però ultimamente ho visto che mi sta apprezzando, quindi questo... Ma io leggerei la sua commento. Esatto. Dove c'è Luigi Marrone, c'è stile e profondità, andate avanti così. Attenzione, perché secondo me ha una doppia chiave di lettura. C'è la profondità, eh. Dove c'è Luigi Marrone, c'è stile e profondità, quindi andate avanti così, verso la profondità. Andate avanti, non è un'affermazione, è un'esortazione. Di Luigi Marrone. Luigi, che gli vogliamo dire a questo tuo fan scatenato? Che tra l'altro da altre parti ha anche linkato, hanno fatto un video su YouTube con le immagini di Sentinel e le parole di Luigi Marrone che parlava di Sentinel su Dietrologia, sì, su Retrocast, tra l'altro puntata al quale ho avuto anche l'onore di assistere, insomma, sono bei riconoscimenti. Ah, dai, Luigi. La nonna mandragola, ricordiamo. Sì. No, che dire, io ho avuto modo praticamente di scambiarci poi tramite messaggi privati. Addirittura. Non lasciare il tuo numero di telefono, mi raccomando. Ma povero no, Morgan. Perché fondamentalmente abbiamo... alla fine ho visto che aveva messo aveva straprodotto dei miei interventi, li aveva rimontati... facendo un copia e incolla di alcuni miei pezzi, alcuni miei articoli, mettendoci la voce, quella robotizzata, no? Quella. Il, non so come sì, la chiamate. Sintetizzatore voi. Vocale. Sintetizzata, sì. E allora mi sono prestato, diciamo, a riregistrare queste cose e inviargliele. Gli ho fatto una sorpresa. E il vero nome di Morgan, non so se lo sapete voi, no, è Mario. Ah, oddio. Lui si chiama Mario. Oddio. Sì. Parla tutto quindi. Cioè, sì. Ma quindi tuo fratello, insomma, si chiama Mario, eppure non è che me stupisce così tanto. Sì, sì, ma non è mio fratello che ha fatto, ma vorrebbe tutto questo. Sì. E niente, quindi spero mi perdonerà per il fatto che io l'ho nominato, insomma. Ma questo lo scoprirai nei prossimi giorni se ti svegli con una testa di cavallo sul cuscino. Sì. Sì, lo capisco. No, ma poi in realtà noi, cioè, nel senso, al di là di tutto, noi che facciamo questa cosa dei podcast, tra virgolette, siamo podcaster, chiaramente gli ascoltatori per noi è manna, no? Nel senso che non è che noi viviamo, capito, pensando ai 150 milioni di ascoltatori, viviamo su quei numeri lì e viviamo, nel senso, tra virgolette, per lo stimolo e l'entusiasmo che ci danno, e ovviamente anche le persone negative. Noi Morgan oramai l'abbiamo preso perché per noi, per la sua presenza su Archeologia Videoludica, ovviamente per la nostra esperienza, è diventato come una mascotte. Cioè, se io vedo un episodio che non c'è sta il commento di Morgan, mi preoccupo. Cioè, diventa quasi, perché il rapporto podcaster-ascoltatore è così più stretto che alla fine diventi quasi uno del gruppo, no? In qualche maniera. Quindi, Morgan, mi raccomando, non smettere di commentare, perché sennò poi noi pensiamo che sei ammalato. Ormai, quindi deve no, essere confermo, presente. Cioè, io al di là di tutto lo ringrazio perché è un ascoltatore estremamente attento. Attento e presente, poi. Sì, esatto. Quindi, questo bisogna. Un ottimo, al di là di qualunque cosa possa dire in generale, è un ottimo ascoltatore, questo parlando dal lato podcaster, quindi niente, lo ringrazio e basta, direi di chiudere la parentesi Morgan, che ormai ci sì, no, la podcast la parentesi parte. Morgan la chiudo io, perché allora veniamo poi ai feedback che abbiamo avuto sulla pagina di Facebook, che insomma appena è stata aperta ha avuto un certo numero di utenti nuovi, perché c'è nonna Mandraiola, che probabilmente secondo me è sempre lui, perché anche nonna Mandraiola sulla pagina ha linkato ovviamente sempre il link di Marrone che parla di Sentinel su Retrocast. Sì, insomma, sì, è lui. È sempre lui, ok. È sempre abbiamo... lui, oddio. Ok. E allora poi c'è Alessandro Ciccotti che giustamente dice un altro podcast sui videogiochi, e vai e ride, quindi deve essere abbastanza contento. Alex Raccuglia, ovviamente facendo riferimento alla immagine di copertina della pagina, dice che Erculo tira sempre, e in effetti quella era la nostra intenzione. Anche, sì, abbiamo ricevuto delle critiche anche autorevoli, perché giustamente anche Mario Morandi mi fa notare che il fatto che in effetti non solo non è molto attinente, ma rischia di non essere molto elegante. Ci rifletteremo su questa cosa, Mario, soprattutto grazie dei feedback che mi hai dato per quanto riguarda il primo episodio di Etrologia Videoludica, perché sono stati preziosi e sicuramente molto interessanti. Poi piano piano questa trasmissione, che è in divenire, insomma, si trasformerà. Paolo Perini, sempre sulla pagina di Facebook, dice o Deus, ma che è, perché dice che è mostro di Etrologia Videoludica. Poi dopo chi ha capito dice: bene, se volete sarò disponibile per una puntata sui videogiochi open source per PC, che probabilmente non ne parleremo mai, no? Però se vuoi venire, chi lo sa. E poi il commento più articolato l'abbiamo ricevuto su Google Plus, tra l'altro attenzione, ha dato anche un significato a tutto quel social, esatto, okay. Michele Berti, che tra l'altro si è sbagliato, lui ha commentato di Etrologia Videoludica sulla pagina di Archeologia Videoludica, ma non fa niente, e vai Marco, leggilo te, va. Quindi dice: ottima trasmissione, buona realizzazione tecnica, non ho mai giocato a Mass Effect, ma credo che come sempre il tutto sia da inquadrare sotto un punto di vista economico. Il videogame, come tutti i prodotti di concetto, prima o poi cade nelle logiche di mercato che non sempre coincide con chi crea il prodotto. Ingerenze da parte dei terzi sono dunque la causa di un calo di qualità nel gioco, Mass Effect compreso a quanto pare. Mi piace il piglio polemico del programma, anzi io ci andrei più duro. Amo la figura del distruggitore che vede essere più causto possibile. Basta con il buonismo dilagante, però per colpa di Roberto che Democrazia Cristiana Bertoni, purtroppo ci ha portato Andreotti in trasmissione. Va bene, ragazzi, allora facciamo un giro di saluti e presentate anche i vostri blog, insomma, i vostri siti, che mi sembra, anche partendo da Luigi, insomma, un saluto. e per la prossima, cioè, sì? No, saluta insomma il nostro public. Ma anche no, volendo, sì? Vuoi anche mandarla a fanculo. Ciao. Tranquillo. Ciao. No, ciao, saluto tutti quanti, ovviamente ciao a tutti, insomma grazie di seguirci, continuate a seguirci. Io non ho un sito particolarmente attivo, nel senso ci scrivo molto poco, comunque il mio è www.electronicself.blogspot.com e insomma ricordiamo che registro sia su Dietrologia Videoludica, Retrocast, e sono anche su un altro podcast chiamato Outcast. E qui c'è anche il sito. Tra l'altro, Outcast, che ha fatto di recente un agglomerato, una sorta di network di alcuni programmi, di unendoli in un feed solo. Io vi suggerisco di ascoltare Outcast Sound Shower, perché è veramente fichissimo. Cioè, a parte per chi è appassionato insomma della musica sui videogiochi, la storia della musica dei videogiochi, è veramente fatto molto molto bene. Ok, Stefano. Sì, io vi saluto idem come sopra, quindi vi ringrazio per averci seguito sino a qui. Potete trovare me, Luigi, a volte anche Simone Pizzi, incredibilmente, vari personaggi, ma saluto anche il buon Vittorio che conduce assieme a me Retrocast, e niente, ma semplicemente se mi state ascoltando più o meno, dai, ci conosciamo, dai, su via, e niente, sì, Marco. Lo voglio salutare anch'io, Vittorio, che ci voglio bene. Dai, chi non gli vuole bene a Vittorio? Dai, non puoi che volergli bene, quindi è di base, è proprio di default, come Luigi, capito? Gli Roberto. Vuoi sempre bene. Quindi. Sì, volevo ringraziarvi per questo ospitata che, da quanto ho capito, rimarrà una e unica, visto che verrò tagliato presso questo programma. Ma volete fare una petizione online? Salvatemi, vi prego, io non posso scomparire. Guarda che la tua presenza sta salvando Stefano, Perché era Stefano quello che se ne doveva andare. Gli unici complimenti che ho ricevuto in due anni di podcast vengono da Roberto Bertone. Secondo me è il gioco della sedia questo, praticamente alla fine del podcast uno rimane senza sedia, va bene. Comunque, è il bello che il rapporto di mutuo soccorso e di reciproca assistenza dei podcaster. Esatto. E vabbè, potete trovarmi su Eurogamer, però come scrittore, gestisco un sito che è allgamesitalia.net. Eurogamer, non so se dicendo Eurogamer. Marco, giuro, Eurogamer senza la S come dice Simone, eurogamer.it. Poi organizitalia.net, ho un blog che è livingzam.blogspot.com, che ha avuto qualche momento di defiance negli ultimi mesi causa Pargolo, arrivato a lietare le mie serate, ma che spero prima o poi di riprendere in mano, e sicuramente Dietrologia Videoludica, che diventerà il riferimento nazionale della critica internazionale. Addirittura, comunque. Marco, Simone, mancate voi. Perfetto, allora Marco. Io invece voglio salutare tutti quanti. Non c'ho sito, non c'ho blog, me ne fotto. Ce la vogliate mancare. Non me ne frega, io gioco e basta. Saluto tutti quanti, e chi non ci ascolta, Morgan lo colga. Vabbè, per quanto riguarda me, va bene, ovviamente un saluto a tutti quanti, vi rinvito insomma a seguire sia il sito che tutto il social annesso, quindi www.dietrologiavideoludica.wordpress.com, dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra posta elettronica, dietrologia videoludo è il Twitter, se non sbaglio, poi ovviamente dietrologia videoludica Facebook e Google Plus. Per il resto, avete ascoltato all'inizio di questo episodio, prima della sigla, uno spot che riguarda un'iniziativa che il PN sta facendo per l'Emilia. Spero che insomma molta gente sia disposta a contribuire, a dare una mano, perché è l'unico modo per poter essere fattivi rispetto a tutte le ciance insomma che ci stanno in giro, perlomeno nel nostro piccolo. Vogliamo dare un contributo anche grazie insomma al sostegno di tutti quanti. Ci ascoltiamo al prossimo episodio. Potremmo anche dirvi di che cosa parliamo nel prossimo episodio, ma siccome che ancora non ne siamo proprio sicuri, lasciamo perdere, evitiamo insomma di fare brutte figure. Perché quindi, secondo me succederà qualcosa nei prossimi mesi, può succedere qualcosa di importante che ne dovremo parlare subito. Esatto. Vabbè, ciao, arrivederci a tutti, ciao alla prossima puntata. Ciao.